c'è la mora, ora. E accidenti. Fatti in quello. Cosa? No, ma sono tutti i vecchietti, capito? Sono tutti i vecchi, che mi piace fare. No, mamma mia. Allora, vabbè, comunque mi hanno fatto anche l'accumulo del garage e l'ho preso nel requisito. 135 euro. Visita, riferimento all'ultimo incidente che avevo avuto, diciamo un po', avevo accusato un po', al collo e così via e quant'altro, però mi avevano assegnato anche la fisioterapia. Adesso non so il proseguo, della tua procedura. Buonasera. Vai. Ciao Sandro, ciao Claudio, ciao tutti gli altri amici, non so chi ci sia perché ci sono adesso, va. Saluto tutti cordialmente, di qui Roma, va. Ciao Gianni, al momento io e Claudio, le benedica. Ciao Gianni, buonasera, ben entrato. Ci vedo a tutti il lavoro. Cava cava. Tutto a posto? Sì, sì. Tranquillo, tutto ok. E tu? Io, grazie a Dio, sono entrato alle 11 e un quarto, ma sono uscito ancora quasi l'una. Gama, gama, sei a posto, tutto ok. Mille domande, mille informazioni, come mai, perché, come, quando, no? Le solite cose, come hai detto tu. Ma quanto è che non lo vedo, ma quanto è che non lo io non ho mai frequentato, ci vediamo solo al momento in cui il mio voce mi ricorda e basta. Quanto volete, non so niente, niente voglio sapere. Comunque hanno verbalizzato tutto, dice, non si preoccupi niente di... Era solo con una persona informata dei fatti. E vabbè, ma gli ho detto sottovoce, mi si è stretto un po' il culo comunque. Così le dico. Perché cosa devo dire lì? Non ho capito. Cioè ti fanno così, ti queste cose, insomma. Poi ha tirato fuori anche come mai questa cosa del 2008, e tu guardi, cose da ragazzi, niente di particolare, abbiamo chiarito tutto, tutto a posto. Vabbè, comunque qua c'è il verbale, vabbè. Si tenga verbale, a me poco mi interessa. Ha detto tutto ok, poi c'era l'avvocato qui, no, non mi sono preoccupato più di tanto. Beh, sì, vabbè, non te la dovevi manco mettere l'avvocato ancora, sai, non hai nemmeno il coso, non hai il motivo, là. Sì, vabbè, un amico di famiglia, ci conosciamo da tanti anni, l'ho formato, ieri mi ha detto, no, se hai detto per la pazienza che ti conosco, già vengo io. Accompagnato lui, infatti mi ha chiamato Sandro stamattina e avevo da ritirare il limo e lì al mio pascoli e poi da lì mi ha chiamato e sono partito subito in via del Porvotores, capito? Era lì, in via del Porvotores, e comunque sembra che sia tutto ok adesso. Aspettiamo il risultato finale, poi si vedrà. Comunque mi ha vendato un limo, 135 euro. Gava, gava, le trazioni, a me mi hanno fatto un bel le trazioni, non ho pagato nulla, manco 5 lire. Ah, se mi hanno inserito anche il garage, il posto auto, che non è andato questo bollo di cose, non vai, non ha male. Che... Tutto mettalo. Cappagava. Beh, i funerali quando li fanno, Claudio, lo sai? Non avevano fatto neanche l'autopsia stamattina, nulla, perché c'erano dei problemi e ancora non hanno dato il magistrato, non ha dato il benestare. Poi è andato stamattina e c'era anche lui, se andava bene glielo facevano il primo pomeriggio, altrimenti domani mattina, quindi figurati, saranno lunedì i funerali. Vero che hanno ricoverato la moglie. Ma no, ma che? Si è avuto una specie di infarto. No, avevo avuto ieri. Ma allora c'è anche la ragazza che sta un bel male, anche a lei c'era molto stamattina. Già. Un colpo brutto anche perché non riesce a capire come mai e perché è successo questo. Non era per Spirito Santo, mi ha detto che ha detto, no, lui pensa che sia qualcosa che ha fatto lui a qualcuno e quindi hanno fatto a pregare perché lì non c'è arrivato da solo, nel modo più assoluto, lì lui da solo non c'era, anche stamattina c'era la scientifica lì, stanno cercando e ma ci hanno venuti i contatti quelli. Comunque l'hanno trascinato, quanto c'è scritto nel giornale è stato trascinato per quello che gli hanno abbassato i pantaloni, trascinandolo in terra. Sì, c'è tutto un procedimento che ancora è in balia delle onde, però ascolta allora, sa. Sentiamo dopo. È una cosa, occhio l'hanno puzzato a fascina questo verdoso, perché dice che è un posto che si è poi fatto da trovati quello lì. Non lo so, lo sanno tutti. Si sa, però ti ripeto, lì da solo non ci è arrivato, ci hanno portato. Non si sa se l'hanno fatta lì, se stanno cercando, infatti stanno battendo tutta la zona. Tu immaginati che hanno fatto anche i garage, quindi. Stamattina, presto, hanno chiamato, sono scesi, pronti, asserrando in terra, lì, bomba. Perché la macchina c'era in garage ieri, quindi bisogna essere in garage è andato con queste persone o se le ha trovate fuori, capito? Quindi, comunque qualche impronta c'era in più, ma se vogliamo di chi è. Un mistero, brutta cosa, ha preso un male. Ha ripetuto anche stamattina, mi si è sceso di tutto, va giù. Sono sceso, sono risalito, però chi c'è una cosa dopo, non risalgo più mai per qua. E a risare piano. Se non facci volo, ma già a risare. Un figlio deve essere molto brutto a perdere un figlio. Se neanche 23 anni ci aveva, già. Ma lo so, lui è brutto. Il fiore della giovinezza. Però ti ripeto, c'è qualcosa che non va nel modo più assoluto. Lui non si spiega tantissime cose, se ne spiega qualcuna, ma qualcuna no. Quindi vuole capire, perché se come pensa lui, se non ragazza, ne ragazza è due. E lo so, è molto arrabbiato. No, io, ciao. È molto adirato, adirato lui, adirato Alessio, sono arrivati tutti gli amici che sono persone che lo volevano molto bene, quindi l'hanno già detto, non è qualche stamattina. Trovatevi più fretta possibile, perché se li troviamo noi non ce ne frega niente, fanno la stessa fine. Sarebbe la parte bagare, scusare. Infatti stamattina ci hanno fatto due chiacchiere, non ho capito cosa gli ho detto, speriamo non faccia pazzie, però è incazzato un bel inferocito perché non si lascia una persona così, capito? Anche se era un gioco, anche se era un qualcosa di comitiva, dal momento in cui tu ti accorgi che io sto male, mi porti in ospedale, non mi lasci lì, capito? Una volta che io stavo, ero con l'ambulanza, pronto soccorso, avevo fatto una macchina in urgenza, ha scaricato questo qui su una panchina e se ne sono scappato. È chiaro che lì ti coinvolgono, però se sei una persona onesta e pulita non hai niente da temere, quindi dal momento in cui tu vedi che è successa una cosa del genere, che sai tra l'altro che è difficile uscirne se non con l'aiuto dei medici, non lo vuoi da ganchivi nel modo più assoluto, perché tanto l'ora del decesso c'è, quindi una volta che il medico legale dà il referto medico si sa l'ora, si sa tutto di cosa è morto, e se è vero quello che ha detto il dottore, lui sta pensando già com'è la situazione, quindi non è manco. Ma lui lo si faceva, non penso che si faceva. Una volta l'aveva trovato dottore, una volta, ma tanti anni fa, poi non ci ha più trovato, però, non posso dirti niente qua già. Dove sa, ma non vuole neanche pensarci. Aveva trasportato moltissimo gli amici, c'erano un sacco di amici, di garoni. Allora io studi dall'educazione e poi cresci lì come vogliono loro, le amicizie le rovinano. E quello non posso più poi, capito? Grandissimo lavoratore, molto molto gentile con la clientela, molto attento al suo lavoro, preparato soprattutto, tu già lo conosci, ce lo conoscevi perché so che se andavi lì quindi lo vedevi. Un ragazzo a posto, a posto. Purtroppo è proprio vero che chi va con lo dopo il palazzo a piccare, non c'è niente da fare. Hanno dei buoni in mezzo, stai pur certo che prima o poi la paghi. E poi questo mondo della droga è un mondo particolare, capito? Io mi ricordo che avevo caricato in ambulanza due fratelli che erano 10 anni in comunità, tutti e due. Stavano lavorando a Sassari tutto quanto, in officina col padre, eccetera, eccetera. Li hanno trovati quelli che gli spacciavano la droga e li hanno costretti, li hanno rubati i giubbotti di pelle a tutti e due, che avevano i giubbotti di pelle tutti e due, e li hanno bucati a forza e li hanno fatti entrare in overdose, li ho dovuti portare via all'ospedale. E quando è arrivato il padre gli ho detto, cosa è successo a miei figli? E gli ho detto, purtroppo devo dire che sono overdose. Cazzo, ci sono stati 20 anni in comunità, erano i travaglietti tranquilli, va, torna da capo, io non lo so più cosa, erano i travaglietti tranquilli, non avevano più nulla. E lì il problema, Gianni, hai capito, quando esci da queste comunità, da questa preparazione, che poi è una cosa molto, molto dura, dal momento in cui esci e ne becchi uno, oh ciao Gianni, beh, come stai? Beh, sto a posto, e tu? Io c'è prima a te, c'ho io, andiamo a vincere una birra, vai, vedi là, capito? E si rinizia al tran tran. La frequentazione stessa di queste persone ti reinserisce e si è fregato. Ci ricadi, prima o poi ci ricadi, no? Non ho nulla da fare. A meno che non ci abbia veramente le palle sotto, ma ecco, facciamo una cosa, ciao, ti saluto, ti ringrazio, ma io birra con te che non mi aggiungi più, non ho avuto buro drogo, aiuto, avvia di lasciami le balle in Santa Bazzi, lì devi essere freddo, papà, perché se metti appresso, prima o poi ci ricadi, non c'è niente da fare. Poi io... L'ha mangiato, eh? Io sì. Guarda te, no, non si canta mai sicuro. Stasera ho messo a posto un negozio, il cortile, tutto quanto, ho sistemato e stamattina consegne non ce n'erano tantissime, dico la verità. Un po' di calma, e adesso la gente cambia alloggio, lì c'è la casa al mare, se ne scende al mare, in fine settimana più leggero, la sera magari, capito, la gente al mare, quindi si fa degli urbanini, un po' di frutta e via. Di riposo anche perché non fa male. Ma capo, scusa un attimo. Capo. Vanti, qua. Ehi, che vagava. Mi esce altri 10 minuti, ci mettiamo, non vado a mangiare un boccone. E poi niente. Pronto? Eccomi qua. Vai già, se ci sei, ci sentiamo dopo. C'era Giuseppe poco fa, voi è sparito. Fatto sono al telefono. Non l'ho più sentito. Fammi mangiare un boccone e poi sono nuovamente qua, ok? Non c'è problema. Vai tranquillo, buono a casa. Ne ho anche a te il computer, adesso c'è qualcosa di buono. Ehi, buon appetito. Ciao Marco, lì già uscito, sì. Ehi, stava chiudendo, ho trovato quello che mi interessava. Prezzi anche buoni, diciamo, Allora, le stesse cose da Brico Center non c'erano, manco lontanamente. Lì è un po' un gioco di carruzzo, a volte si scambiano le cose. Vado a mangiare, Marco, ti lascio in compagnia di Gianni Doppio Room, dai, ci sentiamo dopo. Buon proseguo a tutti e due, vai Gianni per Marco Condor. Ui, Marco lì, ciao. Uè, Gianni. Dove sei dalle coppie? No, mi sono fermato adesso, sono a Piazza dei Segni, tanto per ricevere meglio. E c'era un po' di propagazione che con questo apparato piccolo di Exa non ne puoi fare. In FM magari. E non è entrato nessun altro stasera, come mai? Oh. Oh già, mi ascolti? Cosa Marco, scusami che stavo parlando a casa. Cappa. No, dicevo, non è entrato nessuno stasera ancora. C'ero io e Claudio prima, poi uno da Porto Torres, Alessandro. Ho sentito io, guarda, con Claudio e cosa, Sandro di Porottore, poi Sandro ha chiuso che stava facendo le cose, Claudio è andato a mangiare, siamo rimasti due. Ah, finalmente soli. Caro. Il gioco della calzetta. Mamma mia, quel bacino con l'eco è terribile. Te lo ricordi come te lo mandava? C'era il periodo che aveva l'eco lui, che mi pare un cipile, aveva venduto un Eco Major o roba del genere, ti ricordi? No, questo particolare no, dico la verità, non me ne ricordo. Però mi ricordo sempre che diciamo a Coccondo ci si. Sì, ha avuto parecchi amanti in tutti quegli anni di radio. Sì, qualcuno gli aveva venduto un 200 canali, no? Perché almeno se lui aveva un 40 gli altri fuggivano sulle altre bande, no? E non arrivava lui. Invece gli è arrivato il 200 canali, quindi andava a rompere le scatole dall'87 al 120. E c'era qualcuno così incazzato che è andato a casa di questo tipo, gli ha fatto lo scandalo, praticamente questo tipo è andato da Falcone, si è ripreso il baracchino e gli ha ridato i soldi. Davvero? Allucinante. Così sapevo io, sì, perché non, no, vabbè 40 canali ma 200, se no quello ti segue anche in banda radioattoriale. Mi poi se lo vedevi in verticale è tutto vergognoso, abbassava la testa. E già. Vabbè, meccanismo. Sì. Poveraccio. So che era un po' cattivello perché a suo tempo, Modigliani lo portava dappertutto, lo portava alle partite di calcetto, lo portava qua, lo portava là. E poi alle spalle sue mi diceva, quei due sono dei stronzi, no, rispetto a lui e la moglie. Quindi più lo trattavi bene più te ne diceva dietro, così con me lo stesso. Io per i tempi credo si potesse, come dire, un po' recuperare, invece no, ha cominciato Marco Condor, questa metà la portante, roba del genere, io non ero io, però siccome poi ha cominciato a dare sempre la colpa a me, e allora portante davvero. Lo faceva con tutti quanti, prima poi si fidava a dare il numero, no? E dopodiché lui lo diceva al baracchino perché si sentiva, secondo lui, portantato da questi qua, no? Tutti, cioè quando c'era una portata e faceva il giro dei nomi. Marco, cosa, quello e quell'altro. Ecco, ma ce l'hai l'MP3, Marco? Allora, nell'autoradio no, però io porto una chiavetta esterna, la collego, mediante però la cassetta, è un giro strano che faccio io, già. No, perché c'è un MP3 io di Falcone, te l'avrei fatto sentire. Ma quello del sito? Sì. So tutto. Di poco ci manca lo prepari assieme a me. L'avevo fatto Cosomi, Armando. Mando chi? Armando, il baracchino. Fatto il sito. Il nome era Dio Fester, mi sembra. Non me lo ricordo. E ha fatto quel sito lì? Mi pare che l'avesse fatto lui o qualcuno per lui. Ma io ho fatto una cassetta, no? Una audio cassetta. L'avevo intitolata Falcon Maiden, anziché Iron Maiden, no? Dove c'erano tutte le sue peggiori incazzature. E come copertina nella cassetta ci avevo messo la faccia sua schiumata. Quella che c'era nel computer della partita che stavano giocando CB. Partita? No, non era roba di partito. La schiumata era stata fatta a Santa Maria, Piazza Santa Maria. No, perché a una volta l'hanno fatta anche una partita che c'era produttore, CB di produttore, secondo CB di Sassari, una cosa del genere, e a lui gli avevano detto che era l'arbitro, ed era tutto quanto schiumato, si vedeva solo il naso, la schiuma da banca. Sì, cacchio, due schiumate in poco tempo, ma mi ricordo che Giovanni Modigliani gli aveva fatto invece un torneo di calcetto, gli aveva regalato una, praticamente un, non so se lo posso dire a parole mie, un cazzone di pane con la dedica, te lo ricordi? Un'altra volta gli hanno mandato al suo compleanno, gli hanno mandato di pasta con la crema che scendeva là. E lui è entrato, se sai cosa mi ronda, non lo so, non mi regala. Ma ci vuole Falcone, mi sa che gli piazziamo la direttiva a Sorso, gliela piazziamo verso Sassari, così è traumato. Faccio bombe di casino, no? E insomma, sai cos'è, lui faceva casino perché gli rompevano le scatole e allora lui le rompeva agli altri, soprattutto quando metteva musica. Beh, ma anche lui che faceva passaggi dei 5 ore. Sì, una volta ha fatto un passaggio, roba era, non so se è roba di un'ora e un quarto o roba del genere, me l'avevano detto. Non smetteva più, come ha mollato la portante, mi hanno detto di cotte, di crude, pesce e corna. Gappa. Quante volte rimaneva a parlare, gli altri avevano già girato il canale e lui era da solo che parlava, stava ore e ore, e poi molla però veramente. O peggio c'era Piero Drago. Sì, non me lo ricordo. Super calmo. Ma io poi vado a bravo, vattene a dormire, a chi aveva muscia, vattene a dormire e basta. Ma io che adesso ho rotto le scatole, sei così maleducato che dici sempre parolacce. Il Piero Drago l'attaccava di più, dice. Ma io vattene adesso, Falcone, che mi stai facendo schifo. Già me lo ricordo, vai e bagnate un brodino di marmo. Dice federasta Pinocchio. Già me lo ricordo. Ma io con questo vizio che c'hai, stai sempre importunando i ragazzini. E c'era quella volta storica che ha detto alla madre, ti do un pugno in faccia! E aveva la portante premuta, no? Quella era stata storica e c'era tutta la 27 su quel canale. No, sì, io ho sentito una volta la madre che è entrata e ha detto che eravamo dei maleducati, che lo facevamo a dirare, ma perché non la finite? Io sono la mamma, non dovete finire, brutti maleducati. Una volta c'era Ignazio Isa che stava cercando di parlare correttamente con la madre, no? E gli ha detto, oh, perché lei è semplicemente un piccolo delinquente. Delinquente. Che tempi, grazie. Ci mettevamo sotto casa sua lui. Quando poi lui sta arrivando fortissimo, ci mettevamo nel fornitore che c'era lì di fronte. Oppure ci mettevamo più avanti dove c'è il parcheggio adesso dei Zanda. E allora, ma c'era di meglio, una volta qualcuno, eravamo in gruppo, c'ero anch'io, io osservavo, stecchino al campanello, e via fuggiti, poi di nuovo ritorniamo dopo un po', stecchino al campanello, e fuggiti, dopo un po' ritorniamo, e gli stecchini erano finiti, allora abbiamo preso quello che c'era intorno, un rametto dall'albero infilato all'incampanello. E voi non dovevate mettere le stecchine, dovevate prendere un cerino, sciogliere la plastica e incollarlo, così almeno si staccava. Ma lì dovevi fare colpisce e scappa, capito? Sennò ci tira il marmo a testa. Oh mio, la mia aspetta. cose brutte non gliene sono successe, tipo nessuno l'ha picchiato, e ci mancava solo quello. Ma gli avevano fatto scappare, ci sono visti da affrontare, ma gli hanno fatto l'appuntamento a Sassa di Viccio, di sera a tardi. Lui è andato, cazzo, erano i bicicli, dice che toccava le scarpe, i stacchi al sedere. E l'ho sentita quella storia dello scherzo del fantasma. Dice, se Puccio accurì, non toccava nemmeno terra. Di Zaccacuri si tirava la canzone a Gurre, e l'ha buttato il sombrero di Piazza Castello, che andava, devo andare a telefonare tua madre, che si era portato questo sombrero grande, e mi ha detto di andare a telefonare la madre, lui come a privare il portiere della cabina telefonica, la cabina si richiudeva, buh, e chiudiamo quel paffaccio, cazzo d'ora, con chi si sombrero non si passava, però non è che pensava di tu, che se uno o due volte c'era e via, sombrero anche quello, e vari episodi ci sono stati. Certe volte era con gente losca, però è stato accompagnato da gente losca che poi l'ha insultato, li prendeva soldi, roba del genere. Che li mangiavano i soldi, si pagavano la pizza anche loro, e poi il resto se lo prendevano la pizza. Sempre 100 euro la pagava la pizza. Ma non quello anche già, mi pare lo portassero in luoghi isolati, lo insultavano, era gente della Dolce, mi pare, e insomma, gli è andata bene, dai. Io vi raccontavo sempre questa cosa di Marco Serra. Giuseppe Serra. Ah, Giuseppe Serra, che gli ha messo la testa nel cesso, ha fatto cantare il suo meglio di te. Io, bei posti poi sono me, quelli là, cioè entri male e esci peggio me, se vola nulla. Ma bisogna vedere se è vero quello che dice lui. Comunque io lo so da un'amica mia che è un'educatrice, ha trovato questa ragazza che è molto carina, io la conosco, mi siede a rotelle, però perché è paralitica, però è molto carina, ed era innamorata di questo ragazzo che c'era lì a San Camillo. Sai, queste ragazze si confidano con le educatrici, e praticamente l'ha trovata piangendo, gli ha detto che cosa c'hai, gli ha detto che praticamente uno di questi tipo bidelli che ci sono lì, no, che fanno le pulizie, gli ha detto che tanto lui non è, che anche se è innamorata di colui, i figli non ne potevano avere, perché lei dice che non riusciva a far l'amore con lui. Oh, così ne ha detto. Sì, ha detto grazie a Antarando, che l'ha chiamato, gli ha detto non ti permettere mai più di dire cose del genere. Beh, volendo sì, riescono ad avere figli, perché anche se non si può muovere, però c'è l'inseminazione, anche se poi una tripolazione un pochino, Non caporali, ma Mimì, ecco, l'uomo dello stecchino. Non uso stecchini ancora. Ciao, Ali, ben sentito. No, prima usavi stecchini. Neanche. Mi faccio aspettare 20 anni e non facciamo avere stecchini. Dai, ti rinfresco la memoria. Uno stecchino in un certo campanello. Ah, no, ancora. E poi quando ero finiti gli stecchini c'è passato il rametto, tutto dentro il campanello. Io me lo ricordo, auguri a quello che me lo ricordo. Ciao a Gianni, salutore. Ciao lì. Aspetta che mi sistemo un pochettino. Ok, sono a posto. Come ti arrivo? Ed è meglio bene. Ti arrivo all'altezza giusta? La guglia. Come 40, sì. Cacchio, con 3 watt. Vabbè che tu sei vicino. Io sto parecchio. Nemmeno 4 watt è dichiarato, 3 ne dà. È allucinante. Mi piace bene, a guglia. C'ha un microfono del cacchio, piccolo, quelli che hanno, presumo, la capsuletta tipo i portatili, no? È la capsuletta di elettrica, certo, piccolina, ma tanto di ricordo ci metti quella del videocitofono è tanto molto di più di quella lì. Ah no, sai come deve essere? No, mi sono spiegato male. È tipo quelle a condensatore dei portatili, del computer, sai, delle cuffie. Riprendi Gianni. È un secondo di QRX, vabbè, se parlo mio cognato, un secondo so. No, le capsule, quelle piccole, quella sto parlando io, piccolina, quella del videocitofono. Capito? Quindi è di colore verde, potrebbe essere marroncina di colore verde, ci metti quella e cambia l'impedenza. E porta molto di più. So c'è quel modello che usava il portatile della Intec, che c'era la gabbietta metallica, quella era micidiale. Ho detto bene, ho detto, questa poppa è... ti batte addirittura il cuore, ti batte il cuore addirittura. Poi la tentil che ho preso, ce l'ho buttato, ma è più probabile di quelle capsule lì, la verità. Ne montava i portatili della Intec e quelli neri. Quindi 40 canali con le dette. Ne ho uno funzionante, ma lo darei come pezzi di ricambio, se ti interessa. Ebbe altro salutore. E quanto mi vuoi come pezzi di ricambio? Come Antone? Se vuoi. Avete parlato, portate le pezzi di ricambio, ho fatto una busta per pezzi di ricambio. Ah, ne hai già abbastanza. Ci ho portato tutto di quella roba lì, la verità. E ho tre, mi sembra, di quel portatile. Ci ho tutti buttati quando ho portato anche il sandolato. Allora, faccio un attimo la casa di mondezza, non saranno. Se poi la prendo dopo funzionante adesso, la tengo qui da una parte. Ma per pezzi proprio nitisi. Purtroppo il mio l'ho lasciato stare, è in disuso perché si era staccato un elemento, no? Quel cacchio di telescopico, no? È uscito un ferretto, quello di rame da dentro. E poi esce un po' cupa comunque di radio, non è un granché. Ma se parla del portatile o del microfono? Portatile. Adesso io non mi ricordo la sigla, praticamente è un mattone nero e ha i led rossi per i canali, volendo al tasto per spegnere il display di canali, è quello? E poi non me lo ricordo la verità, Marco, non me lo ricordo più, ne ho avuto tre di quei modelli lì, però non me ne metto più lì. Te lo ricordo, me ne mangiavo a casa, c'era quel portatile, ero pieno in mazzata, adesso ormai i tempi sono cambiati, cosa mi faccio il laboratorio qui e mi metto in mondezza, no, saranno. E quindi non, sono un po' di tempo che non uso più di quegli apparecchi. Babbo magari c'ha ragione, vabbè, io mi sono dato due cose, la verità. Mi ho portato due display e il... e come si chiama? Due circuiti, ma non è che si va più di tanto. Aspetta che c'era tu ti volevo mettere. Ah, tanto dimmi. Antonio. Ciao, Paolo. Ciao, dove sei di sento basso? Sto basso, come sento basso? Guarda, sei basso, sì. C'è un popolatore, se andate 9, tu sei quasi 9-10. Eia, c'è una banda laterale, lo senti? No, lo sento, ma è pulito qua. C'è una banda laterale, c'è, cioè, di propagazione, ti senti in mezzo a lui, intanto. Non so, qua... Io sento un in FM forte che copre il Leoncino, che peraltro è basso, ma troppo basso, più di degli altri giorni. Qua è Leoncino, e Antonio Bombolo. Ehi, lui volevo dire, là, mi è venuto, non so perché, ho capito, sì, l'ho sentito appena, ma non passa, c'è uno in FM che è bello teccio. Gamma, ti saluto pure io, perché c'è Marco Condor. Sì, ciao, mi ascolti, adesso ti ascolto un pochino meglio, cambio. Ma ti ascolto Santiago 4, Radio 5, non trovo sento più. C'è un guasto che facevo di ex, non della Sardegna. Il canale recuperatore se ne ha che accorto. Peccato che non ho l'SSB, mi trovo nudo con questo apparecchietto qua. Sa che apparecchio è? Il Lafayette. E tu hai trovato io, non lo conosco. Assolutamente. Ma un attimo uscito, vedi che cosa? Della minchia, una cosa in Intec, che cos'è? Lafayette. La verità non mi è mai capitato in mano. Roba di 5-6 anni fa, anche adesso, non ne sto più tanto io, la verità. Baracchini proprio, prima c'era un bel giro, adesso non c'è più niente. Figurati tu. Staro li vende, fa anche buoni prezzi, antenne anche apparecchi, ha tutti quelli della Lafayette, per chi va in macchina sono ottimali, ha questo Lares che è microscopico, poi ha Lafayette Zeus Bellino e poi Lafayette Hermes Bellino che ha le manopelle illuminate gialle, lo smitter giallo e i canali rossi, oppure la frequenza ti fa vedere. Era Lafayette, era bello dell'MS 200, altro che chi si baracchini di luci. Caspita, averne avuto uno in mano, però all'epoca costavano troppo e se li stava comprando tutti Walter, tra l'altro, quindi è difficile trovarne. Ma che è questa palla? Scusa un attimino, che faccio quel segreto un secondo, che sento un pulci. Sarà quello in SSB. No, più che altro questi vanno bene per chi vuole un apparecchio omologatissimo da presentare a casa in caso di colpo, perché anche l'Altrex è omologato, però diciamo che era omologato, qualcosa in più gliel'ho fatta, qualcosa, no? E l'amplificato gli hai fatto 200 canali, io lo so anch'io quello. 454 canali, 10 AM, Watt e 20 SSB, bellino. Un po' cessoso per i motori elettrici però prende gli insegni a neon, di tutto prende, però quando c'è quiete è un bijou. E in macchina già va bene, guarda che 80 è peggio di quello mio, lo sai, non c'ha filtri, quindi quale? Io ho 80, se te lo metti in casa, se sono come tu della tappa lo senti perfetto, compresi anche le calici dell'Ener, figurati, non so filtri. Che cacchio, cos'è? Tutti opzionali sono? No, è un decalettico di vecchio modello, ma non c'ha il filtraggio giusto, capito? C'è solo N2, N2 e basta, non c'è altro. Quando c'è il filtro mi sembra che il 440, 430, allora c'è il filtro AM e quindi non senti nulla, senti tutto il numero delle pulite. Cappola. Gianni, dove ci sei uscito? Io sono qua, mi sto ascoltando. Stavo ascoltando cosa stavate dicendo. Ah, meglio così, sono contento. E quindi Ali, oggi lavorato? Sì, tutto il giorno, fino alle 7. Tu comune ancora ci siamo? Sì, 30 di giugno. Quindi per il momento c'è doppio lavoro. Esatto, doppio lavoro per il momento. Oggi mi sono fatto un po' di panche, per sbattere scoppa e adesso lunedì non so cosa dobbiamo fare, metto di mattina alle 11 a presto la lavora da lì, devo andare davanti con lui, quindi dico che tu rientro tutto male di sera, come faccio l'arcio di sveglio, vado a lavorare lì alle 7:20, entro alle 8:35 da lì fino alle 11, poi dalle 11 faccio la tavola fino alle 8 di sera, quindi figurati come ne rientri a casa, fuso, sai dove è fuso? Senza fare niente, fuso, quindi cosa, una bella mezzogiorno. Fuso ma sorridente, sempre come dire in busciacca. Quello sì, quella vetta mi posso aggiustare almeno adesso. Mi posso dire, posso venire per fare la cena, posso fare un pranzo, tanto sono sempre quei obiettivi e quindi niente non li tocca, capito? Pagato. E quanto ti dà giornata? Un bel 25 dal giorno. Si frecca. Così mi dà, ti dico io. Si chiama cambiare le cose, volevo dire che io. Se sono fatturato, se entra a lavorare, se la piglia in culo e mando tutto a fanculo, mando, ce lo sto dicendo. Mi faccio il lavoro mio, vado dentro a casa, prendo me, mi tiro l'uomo, se no mi faccio una bella passeggiata al mare, sono tranquillo. Ti compri una di quelle motorette che sembrano macchine, là? No, non ci mettiamo scooter, me l'ha regalato Daniele. Non so neanche portato la a casa, capito? Arrivato lui, devo fare solamente prendere la moto da sotto, portarlo a casa, assicurarlo e fare il patentino e sono a posto. E esco di scooter, se mi serve qualcosa. Beh, ma se devi uscire con la tua ragazza, scusa, non esci di scooter. Te ne esci con una macchinetta di quelle, tipo quella che c'ha Giampaolo, bellina. E quelle macchine prestige, come si chiamano, mini macchine, là. Quelle d'inverno non ti bagni, eccetera. Io quello lo piglio 14 mila euro, gli accostano poco intanto. Fai la seconda mano. Sì, ci hanno dato questo per cavacci, quindi meglio nuova e sei tranquilla, fottendini. La bianco me lo trovate a 300 euro una, quando finisco di lavorare con Monti, che per l'ultima volta. Qua quella che ha preso già fuori la seconda mano, ma non si vede nemmeno che è seconda mano, è nuova, non c'è una bici caduta, nuova, bella. Meglio così, mi ha paura che lo ti ripeto. Io sempre la parola nuova, sono più tranquilla. Avanti e piace Marco. Ma ti volevo chiedere, ma tu la patente B non l'avevi mai presa per guidare la macchina? Certo, tu no. Sono andato nella sua mano, ma te la patente della macchina, la vedete, non mi si appunto, non me ne ha fatto tutto niente della macchina, anche perché ho dovuto pagare l'assicurazione, è meglio la macchina 5-4, la verità. Io ho fatto pagare 750 euro, figurati, all'anno adesso, io ho pagato, invece con la macchina italiana pago 250 e sono più tranquillo, è sbaglio. Io stavo scherzando. Non lo so, ma quello che adesso, io te l'ho fatto, ho detto, guarda, fatti la macchina, ho detto, vai, e che ti ho detto, la macchina 50, ho detto, pagare 250 euro di assicurazione, sei più tranquillo, ho detto. E la patente ha detto, se la piglia in culo, perlomeno, bevi quanto vuoi e che ti fai mai dire con quella. In continente le truccano, se le fanno andare un bel quelle macchine. Io 120 fanno quelle macchine, e allora sai, sono anche diesel addirittura. Ma cosa, che sono lente, quando ce n'è uno c'ha il Tiger bianco, lavora al comune produttore, cazzo, quando torna a sorcio io faccio sorso di vidriate, c'è la fila lunga, quando ci possono passare, perché sono le macchine che vengono dall'altra parte, eccetera, e niente, fa blocca tutto il traffico. E tu facciamo così, ho già. Quanto va per bene quella macchina che ne ho visto io truccate fanno 120 e poco pompano e sono anche lì addirittura, basta come cinquantini, scusami, i primi blocchi mi fa la modifica, vedrai come popola. Il problema è che si raccolgono subito, perché io ragazzi dice non si fa questo 120 km/h, si raccolgono subito, a meno che non fa discesa, se mi fa discesa è un corto, ma se fai un vitilineo si ne abbizza, deve sempre stare con gli occhi a posto, se c'è qualche pattuglia. Solitamente hanno dei motori diesel, quelle macchine di diesel, sono 500 di cilindrata, ma vanno lentamente proprio, vabbè se dei trucchi, non lo so se i motori diesel si possono truccare. Sono produzioni dove c'erano blocchi, se sono blocchi, però con la Cuba mi lavora, 100 blocchi fanno le quelle macchinette. Il problema è quando fai a Cuba che ti purichi. Se te ne vengono addosso si spacca in due, ci rimane, se non ti dubbi e basta, non ci rimane altro. Hanno le rotte fine e fine, blocchi. Comunque camminano bene quelle macchinette, lì, sto dicendo io. Camminano bene, il problema è che devi stare ben attento. Molto lo fate per come guidi, devi fare. Se fa tutti sei morto. Il discorso è quello, perché c'hai solo dei tubi, tutto questo è plastica, a meno che non capisci, qualcuno è l'alluminio. Allora va bene. Di Giampaolo è tipo uno station wagon. E è più allungata delle altre macchinette. Tipo Vaurie. Te la presente, dove mi sta tu qua? Io ho visto, conoscerti. Chi c'è? Tu? Io Pompone, ma con Condo. Ciao Marcolino. Già, ho sentito già un po' di volte, ma forse è un pericolo. Ha ragione Antonello, io Gianni ne ho trovato una prima di farmi male proprio l'ultima settimana col fiorino, ero in fretta a Lucia Cesa, entrando in galleria ero 100-110, poi ero entrato all'ingresso, insomma sono entrato a 100, mi ho trovato questa moto, questa macchina con quella che state parlando voi. Guarda, se non mi sposto la gente si accusa la Landriga. Vanno piano piano, almeno che siano truccate, capito? C'era quello di Polo che lavorava a Polottore del Comune, che ce l'ha, quello di Sorso, fa Sorso di Midriate, che è un passaggio, è bloccato il truccante, perché va piano piano e le macchine fanno la fila perché non si possono passare, visto che c'è le macchine che vengono attrappate, un casino. Buonasera, vi due. Già un muro, c'è un Antonello molto pompa e c'è anche Marco. Un muro mi sono trovato avanti, se non mi sposto col fiorino, li chiudo un immaginato la gente di pesci. Alla Landriga ragazzi. Avanti Marco. Ciao Claudio, ben ritornato. Sì, in effetti queste mini mezze macchine, mezze moto, sono troppo lente. E fuori città, per esempio, ando al Ghero, quando vanno lente bloccano tutto il traffico. Dovrebbero avere una corsia loro preferenziale, come andare in bicicletta quasi. E si conferma, sempre la B2 già, forse tu lo senti meglio. Avanti B2, con la buonasera. Scatta, sono in compagnia di Claudio, di Marco Condor e di Alessio. Avanti per chi vuole. Avanti Alessio, poi fai girare. È stato passaggio di B2 posto, nient'altro, la verità. Mi sembra che avessi tutta una persona, ma non ti puoi dire il nome, se no mi vengo le chiese a Claudio. Mi sembra quello di... Aspetta, ecco, chiama la cosa. Perlomeno, sembrava lui. Non ho sentito bene, tu che? Quello che parlava, non mi ricordo di che paese era a casa. Però con l'eco, che mi ascolta che tu lo senti, non lo senti per niente. Si può chiamare, ma mi è sembrato lui per me, non è la verità. Niente sentì, Antonio, niente sentì. Se io non sento, non posso. Se sento, rilancio doverosamente e faccio entrare. Ma se non sento, lo uso Gianni. Vedi un pochino. Non so, chi vuole entrare, avanti. Claudio Spandiero. Qua, questo è il numero, va bene, ce l'abbiamo. E l'altro chi era già? Ah, l'ho sentito io. Manco io, Antonio l'ho registrato. Già, ma lo due, Antonio. Guarda voi chi è. Già mi senti. Io che ti sento un po' a te, no, parlo da me senza, quindi a me dice sì. Ma io sono sotto qua. Ok, tu sei a posto. Mera mera, bene mera. Ma Marco, riprendi tu e vai per Antonio Bombo, che è l'ultimo entrato, va. Ok. Ciao Antonio, ben rientrato. Dopo la mia pausa per gli acquisti. Vieni avanti. Ma non ti sento molto bene, c'ho un po' di QRM alto, cioè. Non so a che zona stai modulando, comunque ti senti bene. Ok, ma quella Maria che quella la partita. Ah, quella tra la nuova, la smatti nuova, che la usa tu la nuova. La nuova, il 1000? Sì, la uso io, la uso mia figlia, ad esempio, ti ce l'avevo io. Mi avevo tre giorni da un altro tipo di smatte che mi ha dato la Mercedes, quella di cortesia, perché era fra l'italiano, ma l'hanno restituita oggi. Portato mercoledì, ma l'hanno fatta oggi. E quindi ce l'avevo io oggi stasera, perché è altro. No, ma perché l'altro giorno? Non l'ho visto bene. Ha cominciato a pisare questa ragazza, Gesù Maria, e tu eri stato pompando un pezzo sulla 131. Ha cominciato a sorpassare, a pompare, e ti assomigliava un pezzo. Ma per i pisanti? Beh, mia figlia è abbastanza più pesante, a volte mi cazzo anche. Perché se la tengo io, facciamo molto veloce, se la lei è sempre in maniera di tacchi, di venerina, capito? Ma è già a camminare. Comunque mi hanno regolato appena la centralina oggi e sto salendo dalla Maggiore, certo l'ho tirata col sequenziale 160. Che la variava. Avanti break, buonasera. Claudio Sparghero, Antonello Motto Top, Marcolino Condor, io continuo a chiamarlo Marcolino ma è sempre Marco, Antonio Bombolo e Gianni Occhiorrut, e poi c'è Bindua da Porto Torres che qua non arriva purtroppo. A te Luca. Buonasera, dai, qua Bollone, saluto a tutti, avanti che mi ascolta, buonasera. Ciao cari. Buonasera pure a te. Ah, già ci arrivo. Ok. Tu mi ascolti, vabbè, questo non c'è problema. Antonio mi ascolta, quello che fa la presa non ho capito chi è, ciao Gianni, poi Motto Pompa, chi è Pomponio, avanti Pomponio. Ma quello che ha parlato è stato strano, chi è Marco Condor? Io Marco Condor, quello, ciao Antonio. Ciao Luca, sono tutto brancato. Adesso lo sento, prima non è in via. Buonasera, già lo sento, vabbè io sono praticamente a Sassari. E lo poi sei B2. Sassari, all'entrata di Sassari, ciao. Ma non ti sentiamo bene, adesso non c'è problema. 15-6. Ma 5, B2. Ah, dimmi che avete parlato in due, dimmi. Ma stai utilizzando l'M95? Ah, sì, quel microfono lì. Cioè, aspetta. Sì, l'ho detto a G, M95. Ce lo conosco, ce l'ho anch'io, se no. Chiappa. Avanti, gra. Oh, Pomponio, bugare, non lo so. Io ho già parlato su Farite. Grande, ripigliatela. Pomponio è il tema confidenziale. Pomponio, ho detto, è in tema confidenziale, invece gli altri due sono i miei figli. Ah vai. Si chiama Pomponio. Sì. L'ho sostituito oggi o ieri. Ho visto il furgone, c'era un altro ragazzo. Chi lo sta parlando adesso, B2? Chi lo sta parlando adesso, B2? Scappa. Ciao Luca, mi hai sentito? Fondo scala e mi stai sfasciando il coso, l'altoparlante. Sì, esagerato, dove sei? Io a Piazzale. Piazzale? L'unico, Cegni. Ah, ecco. Grazie, sotto, diciamo, abbastanza bene, dai, non c'è problema. Ok, io mi sono rientrato adesso, mi sono fatto una commissione, adesso mangio qualcosa e non esco, e poi devo rientrare, devo stare una mattina alle 3, alle 4, Mamma mia, Giulia, di Gerelli, capo di Bonieri. Sì, claro, no, uno con la pittella. Mamma mia, Giulia, di Gerelli, la tua Germania, la punta. Ma non amici, là, lui ci organizziamo, beviamo, suoniamo, ce ne cantiamo, mangiamo, beviamo, mangiamo. Così è, bene, bene, bene, sono contento. Ma io Gianni, buona notte, io, usciamo. San Vedio, oggi era al bar di fronte a quello che frequentate voi, ero... Era il coso al negozio di Davide, stavo comprando mangimento di pesci, cazzo, sentivo la voce di San Vito, e tu mi questo che invece sarebbe vigile era lui davvero. Ecco, tu è una lunga. Dico la verità, però se devo uscire mi devo lavare bene, perché io poi mi faccio la doccia prima di andare a letto. Prendi la spugna e lavati. Chi c'è che deve uscire, chi c'è? No, ma sempre con l'acqua San Giorgio, se ne va. La cugliuta, e allora, voleva di andare, la cugliuta si lava con l'acqua San Giorgio, se no poi, capito, rocchetta. Tutte quelle acque leggere, noi eravamo lì. Direi, soprattutto adesso che l'acqua ha un odore di muffa, da un po' di giorni. L'ho riscontrato anch'io, ne avrete parlato anche voi. Ascolta, non è roba che partisci un muscolo da buoni. Hai detto un gra che non fai con l'acqua a San Giorgio, ma non è che me lo sto inventando io. No, Claudio, ma che c'è la... Guarda che ti esce il muschio che clava qua San Giulio, con la rocchetta. No, la rocchetta c'è il bello vento, il bello fuori. Signor Enrico, si neanche ora è aperto qua. Sì, si è sbarrato, Sono per mezzo, qua c'è la porta chiusa, c'è il sugar. Ci vira via uno, io che ci vado, non mi finisco di casino, mi stai 3 minuti. Oramai, che dinero ha fatto? Però chiude un po' prima, però dentro rimane, si attacca le macchinette, le svuota tutte. Alle volte per non far giocare a fine serata, quando sa che sono piene, le spegne. Cazzo di quelli, E infatti mi ha detto, un giorno gli ha detto, me la accende la macchinetta? Ma lui quando sa che sono piene, le spegne, poi ci va, mette la serranda a mezz'alta e va a giocare lui, e risvolta tutto, se ci riesce però. Sì, che cazzo, va bene, napoletano, non ci l'onfio, A parte che è vietatissimo, se lo beccano gli fanno le chiappe, gli fanno. Io avanti a chi tocca, fatto pro. Ci sentiamo, ciao, sono arrivato, me le vado a mangiare, ciao a tutti. Ciao voi due. Ciao, io oggi adesso ti ho sentito, prima non ti sentivo. Adesso sono, dai, a... Che via è? Ciao l'Italia. Bene, va bene, ciao, buona cena, avanti Alessio. È incredibile, mi sta coprendo anche sia cosa che questo che ha parlato adesso. Cosa? propagazione FM, non mi fa sentire né Bombolo né quello che ha detto, ho capito che era in via l'Italia, roba del genere. Gaba, gaba. Ma era meglio Bravo 2 che B2. Oh, asco. Ma io non è il caso che me lo cambi questo nominativo, che non mi piace. C'è per caso Fantasma come nominativo? Sì, quello di Alghero. Poi di Falcone, il topolino bianco. Porca miseria, guarda, avrei voluto Fantasma, visto che io entro ogni vari mesi o anni e poi scompaio dalla frequenza e volevo chiamare Fantasma, vabbè. Avanti Giuseppe, buonasera. Ciao no, Marco, buonasera, scusate la mia cosa, sì, bruscamente, no. Scusate tutte quante i componenti del canale di ICE. Ma aspetta, Marco Lino. Che vuoi fare, ah? No, no, guarda, visto che tu stai cercando un nominativo, questo nominativo non entra più, proprio non entra più, metti il Falcone. Beh, mi piace abbastanza, solo che io nel questione non l'ho preso ancora. Non entra il... perché a San Camillo non lo sapevi che uno gli ha fatto l'allaccio? Guarda, guarda. Se ti ho preso io, Grisella. Falcone 2. Oh, oh Claudio. Marco Brizzella. Claudio. Oh. E mettiamo il nominativo di... del nostro amico, vuole bere la birra. Ti piace Excalibur? Troppo epico. Ma chi? Belli Gabelli. Marco Giambo. Qua è uno sfinimento, viene sempre in via Nizza in quel bar a fare casino, parla, non si capisce niente. Ma voi dovevate vederlo nelle condizioni in cui l'ho visto io anni fa. Lo conosciamo bene, ma ci sono problemi, figurati. L'abbiamo sopportato per anni per le strade, ma noi lo vediamo spesso lì, al circo del fattore di Giuseppe. Domani mattina sarà lì lo stesso. Uccelli in frequenza. Antonello Chinusa. Ma io sono Alberto. io. Per carità. No, ho detto che c'è la cabina, c'era stasera. Neanche lì poi c'era, ho detto. Sono stato alle 6:30. Siete proprio vecchia. Dimmi, usci a bocco. Vabbè, maniaco, ma da dove vedi, l'amico vedi? Giuseppe. Sì, Nico non c'era, c'era Gabino, c'era. La mia nipote c'era. Ehi, mi sa che adesso mi faccio un giro, gira gira, me ne scendo giù me. Tanto non c'è niente da fare, a me lo sveglio. Ma tu non vuoi andare a Ussi? Tu non sei fatto niente, cosa Ussi? Allora, ieri sera mio cognato con lui, con Antonello, ieri sera ha detto che non fa niente, capito? E vabbè, là. Dimmi già. Ma usciamo? Adesso? Sì, andiamo a trovare a Marco Conno al quadrato. Almeno c'è un problema. Fammi 10 minuti, mi metto e sto arrivando. Aiuto. Io sono oggi, sono una cariattide che ho mangiato mezzo pranzo e vorrei mangiare, magari esco dopo. Marco! Pronti? Il mio numero ce l'hai? Come aspetta? 23 40 81. No, 26 18 26. Dove hai dato il numero all'otto? Ehi, beh, non te lo ricordi quel numero, no? Era dell'amico tuo, era. La madre, ma dove c'è al quadrato? Ehi, sto mettendo in moto per scendere. Aspetta 10 minuti che stiamo arrivando, dai. Dacci il tempo di arrivare e stiamo arrivando lì, dai. No, lasciamo andare, dai. Se ce stiamo andando non c'è problema, dai, ce ne stiamo a casa. Poi Marco va e tranquillamente cena, non è che deve andare a bersi un coso, una mezz'ora di birra per dire. Ma tra uno per le due persone se lo sa bere, se no tu va a cenare, non è che sia tardi ancora. No, no, tardi no, però volevo andare a prendere a Leoncino quel lineare che gli avevo detto. Vabbè, ci sarà domani a Negri. Se vuoi dare il lineare, basta che lo dai domani, cosa c'entra? Non ha bisogno adesso di uscire il lineare. Quindi, sta tranquillo. Se a noi ti si passi dal tanto che c'è tanto veloce al circolo lì, ti bevo una birra, fa tutto tutto, domani glielo consegni il lineare. Tanto lui sabato libero, anche domenica. Antone? Ega. Ma si può regolare quello che c'ho io, il lineare? Ma quello che mi hai dato a me? No, è tipo là. E praticamente esce un po' distorto alla massima potenza. Tipo cosa? Di spiegarmi, io non posso dirti così. Il dettaggio B300, io. No, già, quello esce distorto alla sesta potenza. Alla quinta potenza è una fambola. Tu fai finta che la sesta potenza non ce l'hai. Che non cambia niente, mi Antonio, io l'ho controllato con l'850, con il 440, con il 140. Ma la quinta, la sesta non cambia niente, invece lui risulta 30 watt in più. Però quei 30 watt in più sicuramente cosa succede? Se ne vanno in distorsione perché sono in disaccordo con la massima potenza del baracchino. Però già se tu lo lasci alla quinta potenza, qua a casa mia, ma te lo faccio vedere quando vuoi, non cambia il segnale, rimane stabile e la radio è una favola, quindi ti consiglio di non toccarlo. Usalo in quinta potenza, che non cambia niente già. Aspetta, Gianni. Sì. Gli stessi sono quelli originali che ci premontano o le altre già? No, è nuovo di Zecca, questo qui. Si è giubbato 240 euro. Allora, vabbè, con le stessi, gli metti quelle in ceramica che abbiamo preso l'altra volta. Gli metti quelle lì, c'è tanto da sesta, quinta e sesta non sta curata niente. E sei tranquillo. Antone, non salto in quinta, salto la sola in sesta. E io lo so anch'io che salto in sesta. Se lui ricambia le stesse d'ingresso del finale, quello era 10 euro, mi sembra che sono, se non ricordo male, 97 watt. 5-6 non fa troppo niente, perché ho fatto una modifica la modifica di lì, addirittura anche 5-50 l'ho fatto, e c'era la norma del comune per tutta in macchina, non fa troppo niente con 10-15 volte l'ingresso. Io luce potente non ero 20 di piccolo piccolo, non so, a quello grande della crema della stessa cosa, non so, questo è transito, io ce l'ho avuto già, per quello che lo sto dicendo, la metto anche io la sesta potenza, mi sotto la modulazione, la metto la quinta, bellissima modulazione, e non cambiava assolutamente niente, quindi perché toccarlo? Basta tenerlo in quinta. Cosa cambia? Non cambia assolutamente niente. Paga. Quello in quinta va meno quattro. Capito? È quello che c'è. Qua noi facciamo la prova. Facciamola, io ho 4,40 adesso. Tu fai dalla quinta alla sesta potenza. Vediamo se Antonio lo cambia. Perché a me non mi cambia assolutamente niente. Mi distorce solo la modulazione. Capito? Guarda, questa è quinta, questa è sesta. Ora? Cosa è cambiato a Antonio? Nulla è cambiato. Sta giudito già, secondo te sta aumentando perché ce l'hai diretto il filo strumento, ma è in dispersione, capito? Si disperano quei 10-15 watt che ti va in più, capito? Dai, retaglio Claudio, non tocca nulla, tu lo tieni in quinta potenza e te ne sbatti altrimenti le balle. E vedrai che hai gli stessi watt, perché io qua non rilevo niente, dalla quinta alla sesta, sì, 9,35 rimani, non ci sono problemi. E la radio così va bene, così. Attenzione che non apre la radio, è come che non ne abbi niente attaccato già. Se te l'ho detto l'altra volta, la mia retta, non lo toccare. Usa la quinta potenza, perché se tu chiedi anche a Luigi, tutti gli amplificatori transistorizzati, loro, anche con gli AN48, non li usano mai in sesta marcia. Li usano sempre in quarta e in quinta, in quarta e in quinta, capito? Se tu quello, siccome sei a casa, quindi hai più stabilità in antenna, lo tieni in quinta potenza, non hai nessun problema, guarda, alla grande, te lo dico con molta sincerità, la radio è bella, è il segnale stabile, come non cambia da 5 assieme, non cambia nulla, capito? Cambia solo che ti mangia la radio. Cava, va bene. Andare. Giuseppe, cosa hai deciso? Dimmi, vogliamo uscire? Passiamo o non passiamo? A me non ce n'è problema, io mi dammi 5 minuti, mi cambio i pantaloni e mi metto una maglietta e sto venendo. Tu le mutande? Non c'è Marco, lasciatelo andare a mangiare, cosa ti ha fatto? Ecco. Io mi sono comparato, ma... E allora piglia delle luci, va bene, avanti, prego. Buonasera a tutti, grazie, ben ascoltato. Non so chi tiene il ruolo, sono appena acceso, però stavo quasi per andare a collegare, sono appena acceso tutti per la parte di cura. Salutando a tutti, solo buonasera, infatti io più lungo. Ehi, dai. Siamo io, Claudio, Luca, Leoncino, Marco Collor, Alessio, insomma, chi più ne ha più ne mette, non vorrei aver dimenticato nessuno, comunque la mente, se mi funziona ancora bene, glielo ripeto. Positivo, dai, buonasera a tutti, dai, Luca stasera non mi ha riconosciuto, ma poi anche Giuseppe era nel dubbio, ma insomma poi già ci siamo arrivati piano piano. E a me volevi fregare Gigi, ma non ce la fai. A volte la me ne hai fatto Gigi. A volte la me ne hai fatto. Ah no. Oh, se le faccio quella non c'è, manco lontanamente mi riconosco. Certo, ma fottuto a me Giuseppe, mica Gigi la prossima vita io, ma fottuto in pieno, sembrava una di quelle zoccole americane, cazzo, invece era lui. Niente, che sono un altro fregato io. Mi ha fregato una volta. Cioè, lei mi ha fregato? Sì, una volta sì, facendoci la donna. Mi ha preso per le cose, mi ha preso per... come dice, per fatto un Luca. E ti facevano Manuccia e Pinuccia. Ah, vabbè, ma lui vi appassio. Non è la casa tua, capito? Quindi ho capito. te l'ha chiesto Gianni Doppio Russi. Siccome Gianni Doppio Russi gliel'ho detto, io che le adopero una vista, gli ho adoperato una vista, gli adopero in chiesa. Così pare Doppio Russi. Ho sempre detto, il B300 si è passato barabbato. C'è scritto anche nel coppicchio, forse sì. Non adoperarlo mai in senza maschera, perché si mangia la radio, va in saturazione e si mangia la radio. Non devi andare oltre la quinta maglia. Se riferisci a in folle. Lo sa Gianni, gliel'ho spiegato. L'ho spiegato a tanta gente. Non serve metterlo in sesta maglia, perché arrivi di meno e con una radio bruttissima. In quinta marcia c'è benissimo, in quarta c'è benissimo, invece la testa si dà nel rosmet, nello strumento, si dà più potenza, ma si mangia la radio sotto ostacolo e scalza di brutto il lineare. No, non deve andare mai, non si usa in testa. Secondo lineare, anche se prendi quello della chiesa, c'è scritto dietro di non adoperarlo in sesta marcia. C'è la sesta marcia, ma non lo devi adoperare, in massimo in quinta marcia. C'è scritto dietro. Ma allora perché ce la mettono? Non capisco questo. Mettilo si dà la quinta. No, ma no, io gli ho detto solo, stavo chiedendo come uscivo in quinta, come ci dovesse fare la differenza, ecco, tutto lì. Io lo so che è così. Ma Claudio, siccome ha voglia di bonifugo, bastardo, stai dicendo proprio della testa. Qui impari, ero manco impari. Così impari, te l'ho detto che ti faccio vedere cosa oggi ti vulcano, te l'ho detto, eh? Così impari, hai visto? No, ma in quinta, io l'ho avuto già a me. L'ho bruciata in sesta, ma non sto scherzando, io il B350 avevo, l'ho bruciata in sesta, l'altro me l'avevo comprato, l'avevo messo nella macchina, quella che usciva un bel bene, Gigi mi ha detto, mi fa una cosa, bloccalo in quinta e non lo toccare, non l'ho mai toccato, lo lasciavo in quinta, ed era una bomba, in sesta marcia, da Sassari, da Brescia, per Pertugasse l'ho bruciato, incendiato. Non sarà quello che poi ho avuto io, è quello vero. No, questo qua era il primo che avevo comprato, B300, o 300, il B300. Poi avevo comprato quello col finale a MOSFET, che poi ho dato a Walter, ti ricordi quello bello, con le ventole che piaceva un sacco a Gigi. E quello lì Gigi mi ha detto, mettilo in quinta marcia, accordalo bene, lascialo stare così. Lo accendevo e buh, e basta, addirittura lo ci avevo. Era sempre acceso rimaneva in macchina, mi si spegneva quando giravo il quadro, figurati tu perché me l'ho rotto le balle, però in quinta marcia Gianni davvero, fatti gli scherzi adesso, però in quinta marcia esci veramente bene, in sesta secondo te ti sta dando qualcosa in più e invece se ne va tutta in distorsione e lascia non prendere la mazza, così è bella. Va. Andrà bene, e così ne darà 180, va. Andrà 180, e dico una cosa Gianni, e ne dico un'altra, molti di voi sbagliano, molta gente sbaglia, è convinto, dandogli, aumentandogli i fatti, dandogli le stesse, ma dice se la dici, dandogli le stesse, dagli R8, pensa di uscire meglio, non è vero? E che peggio, se tu invece a quella radio stai fatto irregolabile, come faccio io nel 48, ci dai due fatti, invece di essere 5, ma due fatti, la radio la senti ancora meglio, esce ancora meglio, capito? Ti dai il massimo che ti dà sono 4 fatti, proprio esagerando, quando attacchi con le mie ma al massimo sono 4 fatti, è tutto mattino da dire di più. Perché cosa succede? Intanto vedi il segnale leggermente più alto, ma la radio molto più bassa. Tu più abbassi i fatti dell'apparato e più senti la radio più forte, e più la senti in lontananza, hai capito? Vedi cosa vedi? Solamente il segnale e fai fatica a ascoltarti, hai capito? Invece con pochi fatti vai più lontano, arrivi più lontano, ti avvenne 10 fatti di baracchino entrando nel lineare, capisci già? Scappa, così è con due fatti. Vado, posso? Avanti! Ho detto chiudendo, ciao Luigi, non ho che anche se più volte salutato, ciao a tutti! No, non ne ho voglia, se ci siete troppo, non lo so, e se no domani, ciao, buon proseguimento. Guardi, già ripeto, io chiudo. E io, ciao Luca! anticipato. Oh, Luca, a me l'ha rilanciato, ero fuori da tempo. Ciao Luca, pensa che fosse Luca di conduttore, che faceva Luca di Sassari. E a ciao Luca, avanti Claudio. Ero chi c'era, Alessio, poi Marietto, Gianni, chi c'è, Alessio, Pomponio, Leoncino e poi chi c'era ancora? Claudio. Claudio lo so, ancora c'è qualcuno altro. Gianmarco Condo. Ciao Luca, buonanotte, alle prossime. Marco, ci sentiamo alle prossime, d'accordo? Ciao a tutti. Perché te ne sei andato, Marco? C'ho stanco già, c'ho fame. Beh, aspetta, devo aver toccato lo squelo. C'è Giovannino che voleva provare Giovannino l'originale da Vidalba, ce l'ascoltavamo, ma adesso stasera si è comprato, è andato da Fuzzare a comprare non so che cosa e si è comprato l'Arrigo Crocegro, diceva Marco, così si è comprato un Arrigo da Fuzzare per metterla a casa e doveva provare a vedere se arrivava a casa. Allora da Vidalba, quindi vi comprassi il Greco se invece di comprare il Ringo. Oggi non va andata bene quella stessa, micidiale quella stessa, cavolo, è una cosa impressionante quella stessa che c'è in camion. Il cavo, sai che cavo c'ha in dotazione, chi gli ha messo quello lì? Non il 213, l'altro più grosso, l'altro cavo ancora più grosso, quello che costa 6 euro a metro, quello più grosso ancora gli ha messo. Nel camion, ha fatto un buco umano per passare l'antenna e più cavo, quello più grosso del 213 mi ha messo. Più grosso del 213 sono il Cerflex, che tu vuoi chiami Giovannino, Alberto Gabba, Vedova, no, poi non me l'hai detto stasera, aveva giù posto l'antenna, e te che io mi aspettavo una mantova, un qualcosa del genere, no, una Super Long 24, insomma, antenne full. E anche nel corso, un Arringo, era di un pregio di Greg, se che l'Arringo non va arrivi a nomi. Positivo, ma quella che chiama e mi dice, poi, allora, parte con una cosa grossa in acciaio, una cosa che quando è grosso cosa si può dire, come può essere un ferro da 14, un ferro da carpentieri, quello da 14. Da sotto, poi sopra c'è l'altro attacco con l'altra che ti attacca tipo quella che ho io, quella grossa, quello stilo grosso, quello più grosso della 2001, quello stilo grosso, sopra ancora che dice di quest'altro stilo grosso che c'ha, quando si stanno grosso di da 14 mm, cavolo, e poi c'è l'altro stilo grosso che con le tubole che sale da mi pare da 2 metri. Da 1,80 m, sono 2 metri. Comunque sai quanto è lunga questa antenna? Il camion, sono presi già pensanti, per lui fa strada lì, se fa strade come faccio io, fa in foresta e cose di altri, adesso se ne sta. Guarda, col permesso della ruota, perché è una bellissima ruota, io ti faccio una conferenza, dici. Io vi ho sentito un giorno che eravate a non molta distanza uno dall'altro, e dopo un inizio di inviarvi, ok? Non so chi le faccia l'impianto, se lui, se è bravo, se è tecnicamente preparato, no? Sai benissimo con Giovanni, non c'è un rapporto molto bello, non voglio criticare, però da quel giorno glielo dico, lui può mettere qualsiasi cosa, la tua modulazione, il tuo segnale, a lui se lo mangia, nudo, crudo, motrice e rimorchio, vai tranquillo. Quello glielo ho sempre detto io, se tu sai cosa c'ha lui sotto, ma già hai visto già qualcosa, tu l'hai visto il giorno prima della festa, tu già hai visto quello che aveva prima, tu l'hai già visto quello lì già, quello che aveva prima sotto, hai visto che cosa era, hai visto quei due 1200 collegati a te, ha preso quell'ultima generazione del vuoto, si chiama, del piano, che dovrebbe dare di lui 2000 e 2500 fatti. Adesso c'è questa antenna che pesa 3 kg e mezzo di antenna, questa carica pesa 3 kg, e ha due bolloni abbollonati lì sotto alla stampa, c'ha due bolloni già, non è come le altre antenne, no, perché l'attacco ce l'ha a fianco, un tipo attacco come attacchi sull'antenna, la matematura, sta così, sta le PL così a pistare, fianco. Sotto c'è questa fase, non sono, che cos'è? Si fa bollonata con due dadi, con due bolloni da sotto, fai due spuri dalla staffa a staffa grossa e fa bollonata, perché insomma è già pesa 3 kg invece sta carne. Guarda, io adesso ti lancio Gianni, io non lo so, cioè c'è qualcosa che non funziona, perché un impianto da 2 kW in una barra pesante, io penso che come schiacci la portante deve uccidere i corvi, capito? Lui esce come escono gli altri, né più né meno, non l'ho mai sentito più forte di nessuno. Anzi, ti dirò, ribadisco che una volta vi ho sentito e che vi siete anche incrociati, come ti sei allontanato, arrivavi ma molto meglio tu sia di segnale che di radio. Quindi non capisco questo impianto come sia fatto, se è fatto bene o se è fatto male, questo non lo so perché non l'ho visto. Comunque il rapporto da 0 a 2 kW, io penso che lui di quella potenza ne stia sfruttando molto meno della metà, te lo dice Claudio Sparvero, perché la realtà, capito? Perché c'è qualcosa che non funziona bene lì, perché con 2 kW e un'antenna del genere, lui come schiaccia la porta, io lo sento, quando è in cava e c'è cosa in cava, o in zona costante, una terra maria eccetera, arrivi in altri costante, no? Io sono a 40 metri altezza, la cava di cosa la vedo io là sopra il tetto, capito? Lui non arriva come deve arrivare, c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non funziona, a parte la modulazione che non è superiore a niente, è molto meglio la tua e di tanti altri, e questo glielo detto anche di persona, però lui dice la voce mia, la voce mia, la voce tua, e così, quindi non puoi dire che non è esattamente così, io parlo per sentito proprio con molta tranquillità, te lo dico perché secondo me tu esci molto meglio di lui con metà della sua potenza, doppio rotto e ripeto. Vabbè, dipende sempre anche come sono fatti gli impianti. E noi avevamo mandato su internet, avevamo mandato le fotografie di quelli in Aronec, allucinante, da un bel grado, Maria, una cosa messa su sopra le due sedie, cavolo, era lunghissimo. L'abito elettroscopo se l'è portato il giorno lì a Borone, se l'abbiamo fatto la festa, se l'abito elettroscopo l'ha portato. E dove ce l'aveva collegata la macchina? No, l'ha portato per farlo vedere, capito? L'ha portato per farlo vedere, ma lui, con quel lineare lui non ha fatto niente, non ha fatto nulla, ha buttato soldi, ha comprato 2.200 lineari, scusa con quel lineare, e l'ha mandato a sentire, è stato un mese, un anno per stato sentire. Un anno, per poi fare cosa? Per averlo due giorni in camion e bruciato durato. Bruciato? Bruciato, non è durato. Una settimana è durato quel lineare in casa. E che mi piatto, infatti l'alternatore non so come se non ce la faceva, ci volevano due alternatori, questo da modificare, poi se modifichi delle batterie non lo gioco. Stasera, oggi si è messo a fianco a me a vedere in casa, adesso mi ha detto un cavo gruce, ma no, è che si è fatto un buco, è la carrozzeria, ma è stato un cavo. Sai, il 203 è grosso, questo è più grosso ancora, non è macchina, è ancora più grosso, ma che cavo non è mai un cavo così grosso, in casa. Dall'antenna da 330 attacca a Roma Racchino, ma non è mai un cavo così grosso. Forse lui è convinto che esce meglio, capito? Forse lui è convinto che esce meglio, ma c'è tanta piccola dispersione in quei 4 metri di cavo che lui manca solo in marcia. Guardami qua Giuseppe, li ha visti. Io c'ho quello che ho mandato da Roberto, che tu conosci Gigi, poi l'altro che è gemello, sono tutte e due a 4 valvole più una, 5 più 8, quindi sono 4 e 4, 8 e 2, 10, sono collegati in parallelo. si non agganciano le reti di commutazione. L'alimentazione sulla nodica non parte perché il trasformatore ce ne sono due da 220 serie. E cazzo, lui come ha fatto a farlo funzionare? Non capisco. Si è provato prima con un solo alternatore e sono due batterie perché a 24, no? Non ce la faceva, buttava giù la macchina in moto, camminando gliela buttava giù, gli buttava giù la batteria. Allora ha cercato di metterci due alternatori, però mettendo due alternatori mi pare che ha fatto un casino, lui aveva fatto danno, ha fatto danno al lineare, e più aveva fatto danno alle batterie, all'impianto del camion, ci aveva messo la faccia di mettere due alternatori. Secondo me, adesso quando te l'ha comprato questo vuoto, questo della via, questo cazzo di tutto, questo non telecomando, questo qua, questo non telecomando, e te lo danno per 1500 watt, dalla casa come è. Ecco, lui con questi distruzioni avrebbe lasciato così normale, come l'ha comprato da 1500 watt. A Puglia che lui l'avrebbe dato, invece no, l'ha mandato in casino in Sicilia a fare, e ci avevano più di un anno questo lineare rifacendo, cercando di modificare. E beh, no, quando è arrivato qua cosa ha fatto? Che gli dà 2500 watt. Io per me questi 1500 watt non stanno uscendo, non stanno rendendo 2000, ma neanche 1000 watt sta rendendo. Guarda, io un giovanino, un giorno che lui vuole, io prendo l'MN2000, anzi l'MT3000 della Magnum, che era il correttore Rosmet Lovattimato più grande che ci possa essere, e non peraltro si chiama Magnum, che secondo me è la miglior casa costruttrice al mondo di strumenti di alta professionalità. Io lo metto nel camion con l'H1000, quello che c'ho io, quindi con lo spezzone suo originale e i connettori in porcellana, così non ho problemi, perché io su questo amplificatore, ci aveva mandato Roberto, c'ho i connettori in porcellana della Kenwood, hai capito? Un tarvetto da 1,50 m, l'ho pagato 56 euro, capito? Proprio per non avere problemi. Quindi io voglio vedere a lui che cosa ha montato di connettori, che spezzone sta usando, poi io attacco l'MT3000, ok? E vediamo quanti watt mi sta uscendo nel camion. Io ci scommetto una cena a tutto il gruppo, dici che lui si sta erogando con quel camion 600-700 watt, io pago una cena. Perché è impossibile, non ha segnale, e tutti stiamo parlando di 2 kW e mezzo, me. Capito? Io solo con 800 al primo selettore, quindi, perché questo ha due scambiatori, scambia in manuale e in automatico, già l'ho fatto vedere a Giuseppe come funziona, quindi con un selettore solo, quindi usando solo un selettore, quindi mandando in funzione solo 4 più 1 siamo a 800, passo da 8 a 920 con 800 watt. Quindi il segnale c'è, questo è un segnale di sorso, va bene, anzi da 9, no, da 8 e mezzo a 9 più 20, ma va Giovannino, con un selettore, con doppio selettore, ma Franco, sono a fondo scala già, ma cazzo, è normale che sia così, stai erogando 1700-1800 watt, è normale che sia così, io a lui non l'ho mai sentito già, mai l'ho sentito più di 9, 9, 10, 9, 15, ma sto parlando della strada dei due mari vicino lì a Campaneda, Canaglia, il cazzo è. Tu immaginati, cioè come fa lui a avere 2000 watt già, secondo te ce li ha, le sta erogando 2 kW in camion, magari non ce la fa nemmeno la batteria, chi lo sa, 2000 watt sono un bel micro. Già, quella potenza lì ha bisogno della corrente elettrica, c'è poco da fare. Anche per tutti i soldi mi spende sopra, perché nel fine mi spende, adesso questa antenna l'ha pagata mi pare dopo 250 euro, questa antenna qua, l'ho fatta costruire, non c'era nessuno, l'ho fatta costruire apposta per lui, l'ho fatta costruire apposta per Boh, non lo so, io adesso penso che Tommaso adesso andava bene, adesso è preso il soldo, ha preso il lineare, se l'ha fatto modificare, ci sono due, mandato su quello che l'ha mandato e poi continente. L'ha provato, funzionava, andava alla grande, ma è durato poco. Adesso cosa fa? Sono partiti tutti i finali, mi fai una roba di. Allora, quello è una 4, mi fai una 8, 8 e qualcuno più 8 pure, tutti bruciati. Non ne vale bene a segnare, non ne ha, bisogna comprare nuovo. Adesso me lo compro, però il giorno farò tutto la modifica, lo tengo normale come se dalla casa. Va comprato, mi prendo una moda da modificare e trovato dove dovrà. Ho provato a parlare sulle propagazioni e l'ha bruciato, si è bruciato il subfinale, tutte le volte il finale bruciato. È come la Vespa, quando la truccavi, grippavi su. No, hai detto bene già, a fare una cosa del genere ci vuole pressione, perché ribadisco, io se non ho pressione almeno a 220, 230 non riesco a far lavorare i due amplificatori, non riesco a farli lavorare, non lo fa lavorare per forza uno. Stiamo parlando di amplificatori professionali a valvole con una tensione di corrente, quindi con la 220. Lui mi deve spiegare a me come fa a far lavorare quell'amplificatore con due batterie, due alternatori, ma lo so, difende un circa questo, no, non diciamo fesserie, io poi per dire, non diciamo fesserie, io ti sto dicendo che Mario con le 1200 della ZG, visto da me, misurato da me con l'Avant, si chiama quell'antenna, ce l'ho anche io, quella lì, quando era con Aroni, col 1200 proprio lineare, pulito, nuovo, eccetera, erogava intorno ai 750-800 watt. Erano normalissimi, è così, è normalissimo, ma si intendia dalla mia ai Gampera, io qua a casa arrivava 9, 10, capito? Arrivava 9 più 10 dalla piana di Campera con quell'amplificatore. Lui dalla zona dove lavora, io lo sento tutte le mattine sul canale 45, è uguale agli altri, preciso identico. E Antonio D'Alessio, sì, non ci mi seguiva anche il suo parere. Giuseppe, riprendi. Vabbè, su queste cose sono proprio negato, non entro in merito perché non capisco niente. Rimetto il mic a Gianni Doppiolù. Se ti ricordi là, c'era quanto tempo ci vengono, quando ci va col furgone, ragazzi, il segnale rimaneva sempre quello, 9.30 era, 9.30 rimaneva, pensando di arrivare. Antonio, compare mio fratello, c'è ancora in garage a Sedini un B550 di vecchia generazione, con quello usciva già, però hai detto bene, lui come partiva da Porto Torres, si inchiorava a 9.20 sino a Sassari con 350 watt, pieni, modulati, allora, freddo, io non riesco a comprendere, non... Ma se ti ricordi, stavamo parlando anche a Borre o Gigi, ti ho detto, ma come hai fatto a fare una cosa del genere? Cioè questi sono due amplificatori, ma gli altri metà attaccati assieme, i componenti sono questi, glielo ho fatto anche volere. Come fanno a rovare queste due coppie di finali a lavorare in parallelo così? Come fanno? E mia paesa, veghisto cosa? Per me era tutto staccato, per me buono. No, non mi guardavano i conti. La missione, quando gli è arrivato qua, gli è arrivato, che l'ha messo sotto, ma guarda, da corso di Oristano, che lui andava a caricare sulla ruggia, ma se ti chiamo qua in questa, sarebbe, o se no quando nella tua scorina sotto il campo vera, e ti chiami in Oristano, ma è durato pochi giorni, quando gli è arrivato andava, pompava, maledizione, ma poi si è rotto subito, se no... Infatti c'era durato un po', c'era già 10 anni, ma sempre fermo che non funziona. C'era per bellezza così, non mi dice, era solo per bellezza. se stessa Gigi ci segna che è così a tutti. Quando tu, come ha detto Gianni, trucchi una Vespa 50 e vai fuori giri, ingrippi subito, capito? Se invece è normale, non succede niente. Lì cosa succedeva? Che al primo impatto la potenza la teneva, quando tutto il sistema ha iniziato a friggere, copia tutto, perché sono tutte resistenze messe in serie, condensatori messi in serie per aumentare tutta la potenza, finali magari nella rimorchio ce ne andavano due per coppia, ne hanno messo sei per coppia. Cioè, è un lavoro che può essere anche fatto bene, per carità, per chi l'ha fatto, non so chi l'ha fatto, non voglio criticare nessuno, però sono cose che durano poco, perché come ha detto Gianni è una cosa truccata, non è che può durare in eterno. A primo impatto va bene, se tu riesci in gara, boh, basta, finito, ma poi non può durare una cosa del genere, perché è tutto camuffato, tutto raddoppiato, le potenze, tutto raddoppiato, capito? Sul valvolare è un'altra cosa, sul valvolare tu sai che c'hai quattro ingressi da ludica, le pressioni sono quelle, non fai altro che accoppiare i due trasformatori e accoppiare le due ludiche, basta, non è che ci siano molti giochi da fare. Il relè lo fai scattare prima uno e poi l'altro, da uno dai l'accordo, dall'altro dai l'accordo, è lì che eroghi potenza. Ma c'è un palo della 220, c'è un palo di valvole. Il transito non è una valvola a cazzo, è una cosa completamente diversa. Se non c'è raffreddamento, se non c'è quello che deve avere, non può mai durare, non può assolutamente mai durare. Quindi secondo me lui, con quello che ha adesso, io mi gioco una cena, lui non sta erogando più di 500-600 watt, perché quella potenza ce l'ha, sicuramente ce l'ha, ma più di quella non sta erogando, che è stato 2 kW, ma lo vogliamo visti 2 kW, quindi 2 kW sono 2000 watt, miei ragazzi, sono 2000 watt, io non li ho mai visti qua con due amplificatori. Massimo che sono arrivato a 1250-1300 watt con due amplificatori da 5 valvole, 5 più 5, 10 valvole. Cazzo, ma buffone mi sembra. Riprendi Giuseppe. Di queste cose tu sei più, diciamo, ne capisci molto di più. Io non vengo a lingua, hai capito? Avanti Gigi Vulcano. Però c'è una cosa, quello trafitto, se va in corso il coso fa solo la fumata, ma quella valvola che quello scoppia e presente la baraccata in terra, trova tutto, non ci sono capo di amare, facciamo entrare il freccio, avanti il freccio. 7351 dai, qua operatore dinamite, salutoni a Claudio, Luigi Vulcano e a Leoncino, avanti per l'antenna. Ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato, dai. Avanti Gianni, doppio per Gianni, speriamo. Doppio ru. Sì, ciao, avanti, dai. Poi no, sono le due che viene in bagno, non me le fatte mai, allora me la sto facendo addosso, dico la verità. Sì, sì, è entrato Gianni di Ramite di Chiaramo. Beh Gianni, buonasera. Buonasera anche a te, doppio rumo, come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Per andare peggio meglio così già. Sì, guarda, hai proprio ragione, dai. Comunque un saluto circolare a tutta la ruota, Gap. Oggi con che apparecchio siamo? Un 3 di dentuccio. Tutto a posto, sì, sta girando bene. E chiara la voce, tranquilla. Si sente bene, dai. Avanti Claudio. Buonasera Gianni di Amica, ben ascoltato, cordialità e saluti, ben entrato. Adesso ti passiamo a Giuseppe Giorgino, si riesce a copiarlo. E così Gigi Vulcano, hai detto bene, infatti io non voglio segnare niente a nessuno per carità, però dico sempre non giocate con gli amplificatori a valvole perché sono molto molto pericolosi, soprattutto quelli di grande stanza. sono giocattoli, però bisogna stare attenti con tutto, quando si parla di corrente, di tensione, bisogna stare attenti con tutto. Mi è saltata la tensione al Gigi Travoletto del 231, c'avevo la portante calcata e mia moglie ha attaccato la lavatrice senza avvisarmi, io ero già in tensione, accoppiato e ero, perché io trasmetto sempre a un metro abbondante dalle radio, per esperienza vissuta, come ha saltato il salvavita, ha scoppiato il condensatore e se mi prende a faccia mi scende invece, capito? Quindi bisogna stare molto attenti quando si parla di queste cose, massima attenzione, perché non c'è assolutamente da scherzare. Giuseppe Leoncino, perché il microfono vede un pochino se ti sente, vai direttamente per Gianni di Chiaramonti, così vediamo se mi sentite. Ciao Gianni, buonasera, ben sentito. Buonasera anche a te Leoncino, dai, più cordiali. Ma non c'è anche qualche altra persona qua? Minchia, che accanto, perdonami, colpa mia. Ero convinto che ti era allontanato, invece era cosa che si era allontanato Antonello. Perdonami Anto, ti ripasso il microfono con tante scuse, avanti. Ma no, vabbè, non fa niente. Non succede niente, vabbè, io mi stavo solo ascoltando così, mi stavo. Ero due ore lì, ho detto, ma non mi rilancia, non mi rilancia, non mi rilancia, non mi rilancia. Io già mi ero sbatto le palle, se l'avessi fatto un'altra persona che su io, mi incazzava come una belva. Cioè, se ti mandava a qualcuno subito, se lo sai. Lo so, Antonio, si può sbagliare. L'avevamo presa a questo discorso e pensavo che eri tu che ti eri allontanato, invece era Antonello Polbonio. Va bene, dai, perdonaci. Perdonaci. Gianni, riprendi tu e fai girare, va bene. Vabbè. C'era anche Pomponio che è in parcheggio. Alessio! Dove vai e viene, poi mi confonde, cazzo, per l'orientamento. Ciao Antonio, non lo sapevo che ci fosse Antonio, ma io neanche perché ho chiesto se non me l'avete nominato, no? E non sapevo che ci fosse Antonio. Ciao Antonio. C'era il vulcano. No, era due ore, sono sempre ascoltato, sempre ascoltato, ha detto, ma non mi rilanciavo più, adesso che è entrato, vabbè, non fa niente, tanto mi stavo ascoltando così, ero, molte volte io non faccio così, molte volte me ne so, mi hai capito? Non intervengo mai. Comunque il discorso lo stavo sentendo bene, lo stavo sentendo, dai. Positiva, positiva. Scusa, se ti racconto una veloce, tra di uno di Marrucci, si chiama Antonello, però lo chiama Egizio, quello di Stato Egizio, lo chiama Conca e Po, così lo chiama. Quello una sera, anni fa, stava parlando, un lineare valvolare con 30 passi, quelli brutti, lunghi, che anche fatti. E da Marrucchio stavano, non so che in frequenza era, stava parlando con Falte, proprio con Falte dal dove c'era Vittorio, comunque stava parlando con lui, non so cosa è successo, stava parlando, attaccando questa cosa, pompando da Marrucchio per farsi sentire da Falte, lo chiama la moglie, si sposta da questa cameretta dove era e no, è scoppiato questo valvolo, me l'ha buttato giù la finestra, i vetri, tu capisci che sto parlando della roba come, e scoppiato le valvole, se lo trovava al momento lì, perché l'ha chiamato la moglie, si è spostato una fine, se lo trovava vicino l'ha ammazzato, me l'ha buttato, quasi me l'ha buttato la casa giù. Sì, no, non c'è a scherzare, credetemi, ti ripeto io, ma non sto in cui è scattato il salvavita, io avevo la portata premuta dell'amplificatore piccolo, quindi il 231 che era 180-200 watt, non scattando il relay, quindi non scattando subito, ha scoppiato il condensatore elettrolitico, mi ha fatto un casino di Gesù Cristo, il proprio lo scoppio che si è aperto in quattro parti è saltato tutto fuori il liquido, mi ha fatto un manicomio, se mi prende a faccia mi fa cieco, quindi non bisogna scherzare con queste cose, ho dovuto pulire tutto, ho cambiato il condensatore, l'ho comprato, l'ho messo nuovo, l'ho pulito tutto con la trilina, giorni e giorni l'ho fatto nuovo, di nuovo. Però, ripeto, ribadisco, stiamo attenti tutti in generale, perché può capitare a tutti. Quando si parla di quelle cose che c'era 2 venti di mezzo, è pericoloso. Al paesano di Gianni Dinamite, a Carlo di Chiaramonti, a circa 23 di Chiaramonti, 10 anni fa mi ha chiamato apposta, che facevo servizio a Perfuas, mi ha telefonato una macchina di Viga, abbiamo trovato Guido Ramagosa, la prima volta che ha comprato, Viga. Quando sono uscito le 2 sono passato, gli ha fatto un amplificatore, infatti se tu con Carlo parli di amplificatori è un grandissimo radioamatore, c'è radio a livello mondiale, c'è una stanza piena, bellissime cose, di tutto e di più, non ha un amplificatore, non li può vedere, gli è scoppiato il TL922 che io l'ho avuto in pensione, a 2 EIMA Gianni 3500Z che erogano in tensione anodica, attento, in tensione anodica, non in tensione in antenna, in tensione anodica 2 kW l'accensione, 1000 e 1000, tant'è vero che per usare uno di quegli amplificatori io a nono piano avevo 6 kW di tensione, perché solo all'accensione con 3 kW ti scatta il contatore, solo ad accenderlo. Ha scoppiato l'amplificatore perché è andato in corto una valvola, gli ha fatto un buco nel muro e ne ha buttato il tramezzo, se c'era gente era morta. Qua se ne lo conosce Gianni, tu lo sai, lo conosci a Carlo, e è grande, è un bel manno, andata a lavorare, è anziano avanti, Gianni, è anziano, è grandetto di età. Quello vedi, se c'è problemi, quello che ripara gli apparati, è bravo questo Carlo Gianni. Sì, già lo conosco anni, non adesso. Lo conosco, quello di persona, dico la verità, no. L'ho sentito nominare da tante persone, so che è bravo, so che è un radioamatore, tutte queste cose, adesso però non lo conosco di persona. Gianni, non sembra quel Gianni Dinamite che lui richiede a Monti, ecco, curati che neanche lo conosca a Carlo, curati che neanche lo conosce, ci sono già Gianni Dinamite, che lui ha Gianni Dinamite. Già lo conosco. Mi sto seguendo così, dai, no, niente di particolare, non sono ancora entrato nel discorso, dai, perché sono in compagnia, ho detto ti faccio sentire un po' come funziona la radio, ho detto accendila, te la voglio sentire, che mi piace anche a me, dai, sono un compagno femminile e quindi dai, non posso fare un questo molto lungo, sono entrato giusto a salutare e ascoltare un pochino e a vedere le cose. Come state uscendo? Alla grande, state andando veramente bene. Luigi Sesto, chi c'era poi? Ah, e Bombolino qua, va bene, dai. Mi stai offendendo, così mi stai offendendo Gianni, mi stai offendendo così. Lui la verità, tu sei Bigri 7-8, Claudio 9-9-10, Gianni lo stesso, e Bombolino 2-3, ma la radio è molto buona. In queste coordinate, quindi già coprite bene, già arrivate molto bene. Cioè, vuol dire che siete molto direzionati più su questa zona che non della mia, eh? Come sei adesso Gianni, come zona? Secondo te, da segnale, cosa potrebbe essere? Ah, boh, si da. Mai, sono a Porto Torres. Ah, quel non me lo dovevi dire Gianni, non me lo dovevi dire. Oh, cavallo, adesso non c'è nulla da dire, dai, è sfondato il 9.30, bravo Luigi, adesso non c'è nessuno che si mette a te. lasciamola riposare in pace. Ah, lascia il poverino, il mio smitterino, che sennò me lo sbordi, dai, che ve lo abbiamo tarato a 9.30, adesso me lo sbordi. Gigi Volca, mi che accendo quelli miei, mi... Io non disturbo nessuno, mi... Non cambio neanche il radio, Basta mi, pulsantino... Ah, Giuse, come si chiama quel pulsantino? Tic tac. Scendi la bambolina, Claudio, la bambola. E già, vabbè. Lasciamo andare, va. Io ti faccio un passaggino, Gianni di Chiaramonti. Avanti, bombolo. Appa, guarda se è aumentato già. Sta, ora siete tutti grossi, sta. Mi sono sbagliato di... Ah, scusando Leoncino, Devo scusarmi con Leoncino, è vero. Leoncino c'ha un buon segnale, una bella radio, porta miseria, Porto Torres, Bello, picchi di 8-9, radio super 5, bella copertura, se non riesco a sapere come fanno a non sentire la Porto Torres, comunque, vabbè. Ultimamente bene. E Bobolino deve essere che ha acceso qualche... ha dato un po' di gas e... adesso è fermato 6 a 7, ultimo Bobolino. Ma gamba, non me la fa togliere l'altro, se no guai. Poco fare con 4 barre normale, con un alfaiere, tranquillo. Adesso sono con l'Intec 550 power. A te piace? Sì, potrebbe andare Luci. Rec sul canale 10? No, ma è Giuseppe, Leoncino a me. E sul canale 10 qua il tulipano che vi cordializza, buonasera a tutta la ruota. Attenzione, tulipano, vola, buonasera, avanti. Buonasera, ciao Claudio, ciao Gigino, ciao Pomponio, se c'è, ciao Gianni di Forum, ciao Gianni di Chiaramonti, Bombolino, l'ho detto, l'ho chiamato a Gigino, sì, Vulcano, dopo non so se c'è qualcun altro, dai. Luca da questa parte, dai, buonasera a tutti. Ciao Luca, ben sentito, con realtà anche a te, dai. Avanti, Luca. Allora Luca. Rottone ben sentito per la primiera. Avanti Claudio. Chi è? Ciucaccio. Ciao Luca Riesi. Mannaggia la miseria, stasera sto pomeriggio ti stavo pregando. Ciucaccio mi. Ma che te ne vale? A Luca Furio è entrato. Buonasera, ciucchicciù, sono un gatto. Per fortuna, buonasera. Gamma. Ciao, Bobo. Mi sono tornato tutti, ciao Gianni Chiaramonti, come sta? Tutto bene, sì? Bene, Bobo, dai, tutto a posto, tu? Anch'io, sono contento. Meglio così, dai, ti ho sentito mentre modulavo a uno di voi. Abbonato, mi ciucucciù, hai sentito che questo è Pomponi. Comunque dai, chiudo con questo passaggio e saluto anche a Lucariero, il Porto Torres. Porca miseria, io non pensavo che eri così forte a Porto Torres, c'è una cosa da non credere, veramente. Allora, ho sto peccato come zona, perché accendevi due spie rosse a 9.60 è una cosa assurda, cioè aiuto. A fondo scala, una cosa assurda, mi, fondo scala la tiene cazzo, tra arrivare dal distributore fino all'entrata di Uzio. Poi tu adesso qua con il dottore, complimentoni Luca Rie. Ciao, è il porto. Vabbè, che lo credo già, allora siamo vicini, anch'io sono già a porto. Ciao anche a te Pomponio, è ben entrato. Dai, chiudo il tutto, salutoni a tutta la ruota circolare, dai, che io al massimo rimango nascosto, ok, buon proseguimento di queste ore a tutti quanti, ciao, dinamite ti saluta. Ciao Gianni, dai, salutoni, saluta anche ai componenti della macchina, dai, il resto dei componenti. Gianni, dai, fatti un proseguo della serata, dai, salutoni a tutta la compagnia. Ma però non ci hai fatto almeno sentire la voce di qualche componente che ci saluti. Gianni è già chiuso, buonasera. Facciamo solo buonasera, ciao, va benissimo. Dai, fatevi buon proseguo della serata, dai, divertite. Poi Gianni Dinamite. Ui, ciao, che è tutto? Beh, questo segnale è aumentato. Uia, uia, lascia tutto com'è, dai, anche per te. Si sentono anche rumori di pentoline adesso. Cioè, non è possibile che quando accende il coso devo battere il volume per questi rumori di pentole. Stavamo solo uno, se lo mettiate qualche altro. E dai, sono passato anche le perché mi state rovinando lo smith. Ottimo, ottimo, dai. Controlla questa radio qua un attimino, che guardiamo un attimino un altro microfono. Se è meglio questo oppure è meglio quest'altro. Allora, questo qui però fa un po' di fracasso importante. Aspetta che voglio passare qui. Ok, com'è questa amplificazione qua? È meglio questa o quella che stavo modulando prima? Ma mi sembra questa leggermente più alta, questa leggermente più alta. Ma senti la modulazione doppio room, cambia qualcosa? Una tensione di... perché qua abbiamo l'amperometro sulla tensione nudica, siamo a 350 mA di assorbimento a valvola. No, va bene, va bene. Oh Gianluca, devi rifarmi i passaggi per capire se non ero attento. Registrato il break con la buonasera, avanti dai, Salvatore, qui fai girare. Ciao carissimo, ben sentiti tutti quanti, Salvatore da questa parte. Ho sentito te, Gianni, Claudio, e poi credo che ci sia qualche altro amico che non ho identificato il nome. Riprendi pure tu e poi sentirò i nominativi degli altri. Di nuovo saluti a tutti. Gigi, avanti. Ehi, ciao Salvatore, qua in zona di Porto Torres, Luca Riello, qua in zona Porto, in barra mobile, ciao, ben entrato. Avanti Gianni. A Paluccarie. Questo qui è bello, questo si sente bene. Lo sai che al primo titolo mi pare che Antonio ha detto... No, sto provando l'M300 là, perché mi stanno dicendo che sta uscendo basso, anche Stanno me l'ha detto l'altro giorno, dice che mi sentiva basso con questo microfono. Adesso ho messo l'M300, me ne serve meglio. Ma vabbè, lascialo stare che va benissimo. Ciao Salvatore, buonasera, ben ascoltato. Avanti, vediamo un pochino se mi ascolta Antonio Bombolo, avanti. Mamma che c'è il mare, anche lo spazio. Se non me porti no, che ti guarda a fondo scala. Via. È un sistema che va veramente bene questo. Però io sempre l'occhio, sto parlando, ma ho sempre l'occhio sull'amperometro che segna il milliampere della nudica, perché bisogna stare molto molto attenti. Antonio D'Alessio, noi siamo a 200 metri, mi senti saturo? No, sempre che sei a me, guarda. Sembra che fumo una sigaretta, Capisci dove sta il problema, già? Ok, Leoncino, riprendi. Però buonasera nuovamente a Salvatore. Avanti, Giuseppe. Che stacco e riprendo normalmente, era giusto per fare una prova. Però sono veramente contento di questo lavoro che ha fatto Roberto Gigi, lui questa cosa che mi ha detto di fare è veramente un capolavoro. E connetto sull'altra radio come lo prima, è stato, se no non ha nessun significato. di Gino Vulcano. Positivo, ciao, sono solo con Maria del Tempo, buonasera, ben ascoltato anche da me. Ciao carissimo Gigi, c'era Giuseppe, buonasera Lucariello, siete in molti stasera, ben sentiti tutti quanti. Un po' saturo ti sento, Cla. A me? Non mi sente saturo Antonio, mi senti saturo tutt'ora e tutti quei filtri? No, sei un po' compresso, ma saturo no. Raga, siamo... Torretta 250 mA di assorbimento, Salvatò, è la portante muta, siamo a 800, quindi adesso stacco perché non è il caso. Via lì basta. A 800 senta l'accoppiamento della seconda fase, quindi siamo sempre in prima fase. Altrimenti passa a 1600. Ciao Massimiliano, buonasera. Sì, non ti dico cosa perché ti stavo aspettando stasera. Vabbè, pazienza. Sono in ascolto, ciao a tutti. Ma mi rispondi a me, ha detto che passavi a prendere quella commissione, perché non sei passato? Perché c'era una cosa più importante. Va bene, ok, dai, ti cambio radio. Se ci sei magari poi domani mattina, non lo so, domani dopo pranzo. Va bene, ho staccato. Va bene, d'accordo, passo con l'altra radio, dai, avanti a chi tocca. Ciao Massimiliano. Ciao, ciao Gisà, io rimango qua a vestire, buonasera a tutti. Io, ma lavorando sta sotto, aspetta Massimiliano, il Giorgio Pili c'era questa settimana, per lunedì, o c'era nessuno? No, lui non c'è nessuno, non ci siamo neanche noi dalla prossima settimana. Puro. Io stiamo bloccando tutto. Avevamo un rimorchio, li abbiamo portato. Lì. Avevamo un rimorchio carico, per prendere un altro muro carico. Quelle per fare quelle specie di lastre di connesso che sono sopra quei fondi. E ce n'è anche un altro carico. Non mi sembra che avrei visto uno sotto un ponte, non lo so, però se è quello. Sì, già è quello. Se è sotto il ponte o sotto, non lo so, comunque ne abbiamo portato uno, carico, ce n'è uno ancora. Non ci vediamo a Torino, dove giornale. Già. Tu è chi ci riesci nel giornale? No, io non ci sono lì, quello è la Vita Luce. Ah, la Vita Luce, va bene. Se vuoi rimanere siamo qua, dai. Allora, io proprio l'abbiamo fatto avanti a chi tocca. Buonasera Massimiliano, Bulldozer. No, buonasera a tutti, rimango corretti, vi ascolto, dai, ciao ciao. No, uno mi ha chiesto se ti conoscevo, uno che lavorava a fare da fiori insieme a te, che lavora lì alla blocchiera di Alghero, da Brutto. Sì, ho già capito che eri Villanova, Ah, con quello di Villanova, ma ti conoscevo. Sì, perché c'è andato Coso l'altra volta, ma io mi sembra a scaricare lì. Aspetta, come cavolo si chiama? Pietro. Non parlare con lui di Amacomeo un giorno, visto che ci ha parlato con te, ma piace. Ehi, è vero, non fammi in cava. Quando ho piazzato quel 48. Chiama. Amacomeo. Ciao, Arturo, ciao. Buonasera a tutti, dai, rimango in corretti, dai, sto facendo cosa qua. Ci sentiamo le prossime, dai, vi ascolto e non riprendo più, dai, buonasera a tutti. Ciao Massimiliano, scusa, sono salutato prima, dai, un attimino che è in fase di uscita io da lavoro, dai. Ok, già gli do più rumo, avanti, dai. Ciao Massimiliano, così ti aggiungo. Che dite Gianluca, stai uscendo adesso? Sì, proprio in questo momento. Una bella serata, sembra tutto tranquillo, calmo. Niente pescando, c'è. Siete pescando? Charlie, mi hai chiesto siete pescando? Io ho detto ce n'è gente a pescare. Cappa, tutto pieno? Lo immaginavo. Di notte adesso tutti quanti vanno a piare spigoli. Io almeno già. Sì, senza avermi, senza nulla. Informerò, promettiamo. Claudio, come andare domani mattina presto? Alle 6:30? Le 6? Domani mattina presto e peschi, Ti dico che peschiamo domani mattina presto. Già, noi non abbiamo problemi. Peschiamo il verme noto, tu tagli da sopra e io tagli da sotto. Era buio. Era buio, prima mi mette il gomma di passamà. Adesso già è bello anche andare a seppia, mi pare che anche lì mi ravvaro la gana e tento. Comunque era vero, Clark, chiedo dell'elicottero, elicottero, Ma è di sì, a Sassari? No, io non caso, vive dell'industria già, però Clark. Era vero, è quello dell'elicottero, Clark. Se assume si c'è emergenza, chi sono? Il Lorai. Non ho sentito niente, non ho sentito niente. No, perché avevi fatto un passaggio 9:10. Ha giudito, ma si asseriva, tiene Gianluca. Molto bene stai andando, Gianluca. Molto bene alla grande, si è fatto bene. Allora, rimettiamo in ordine la situazione. Antonio Bombolo, vedi un po' se siete Gianluca. Bombolo. Io prima, Claudio, scusa se riprendo anticipatamente qua, prendo il microfono un attimino così. A Bombolo lo sentivo, dove ero prima, figurati tu in macchina, cosa che non lo sento in casa, deve essere proprio negativo le mie coordinate dal QTH. Ma tu non hai risposto, Vittore? Mi hai risposto in spagnolo. Mi lasciare. Tanto la vivo lineare attaccata, non è entrato nessuno, ora io sono con 30 watt e mi sono spagnoli. C'è una bella propagazione, sentite. Va bene, dai, riprendo un attimino le manichi, dai, gentilmente mi devo scusare che mi devo assentare un attimino, che salgo su, un attimino, se ci senti dopo riprendo, ok? Avanti c'è il doppio rumo, mi tiene tutta la rotta, grazie della compagnia. A breve, ci sentiamo più tardi, grazie, ciao a tutti. Cara, la compagnia, te la facciamo domani notte, io no. Benissimo, vi aspetto numerosi, grazie già. Oh, se mi fai cantare un paio di canzoni, se no vengo pure io, però mi fai cantare un paio di canzoni. Tutti, che vuoi cantare, canta, non c'è problema. Non mi pare manco io a me. Io canto in questo, non va bene lo stesso. Tutti possiamo cantare, ok. Ma boh, dai, ci aggiorniamo casomai più tardi, magari stasera o direttamente domani, dai, intanto domani sono libero, così che abbiamo modo di organizzarci. Ok, buon proseguimento di serata, ragazzi, dai, se non è troppo tardi, io andrò a salutarvi più tardi. Se no, ritenetevi salutati, una buona serata, un buon proseguimento di queste ore e una buona notte, buon tutta domani. Ciao Gianni, ciao a tutti, riprendi già. Ciao Gianlu, dai, buon rientro, dai, buone cose. Se vuoi riprendi da casa, poi tanto. Ciao a tutti qui, dai. Ciao Gianlu, dai, fatti buon proseguo della serata, dai, non so come anche chi ha avuto il compresso, però non so dopo. Oh sì? Tutto per sé. No, domani sera. Allora, diciamo, questo non è stato una fretta. Vabbè, dai, io riprendo e passo un colletto e poi vado a dormire. E dopo il sacco. Si può domani, tanto non siete usciti, perché poi voi, una poletta, anche perché domani, ormai, sono a casa, fatemi sentire. Ci sono la mattina, saluto per tutti. E domani lavoro, lei non posso uscire così. Domani no. Io ci sono a casa, ma c'è la 8:30 la mattina. C'è Giovanna, c'è la figlia e quindi sono qua a casa. Cosa vi dica? Perché voi se siete usciti poco fa, volevo fare una passeggiata, almeno non la birra, no? Ma cosa vuol dire poi entrare qua a casa? Ma vi dico, o domani sera o domenica, là, non c'è problema. Fatemi bene, buono per tutti e alla prossima. Ciao, là, a domani mattina. Ciao. Ciao Antonio, già sono al movimento domani, dai. Ci aggiorniamo, ci sentiamo. Avanti, Rionci. Ciao Antonio, ci sentiamo. Avanti, Gigi, Vulcano. Positivo. C'è un coso, là. quando lo vedo glielo chiedo a Giovanni Mattia. Ma chiedo se partecipavo, se andavo pure io a questa manifestazione col camion. Se fanno questo rally col camion, capito? Però non ho capito se lo fanno a Morese o dove lo fanno, in quale città lo fanno. E poi c'è un prato, una cosa, ci metto tanto a te, come stava dicendo Giovanni Camposanto, se vengono sulla continente, d'accordo, fanno questo rally di camion, corrono, fanno questi rally di gincane, come vuoi chiamare, ma non so se lo fanno nella pista di Mure. Sì, l'hanno già fatto una volta, tra l'altro abbiamo fatto anche servizio radio noi. È praticamente lo stesso gruppo di quelli che fanno i salti con le moto, solo questi sono con il camion. Ho visto, fanno delle cose spettacolari. Addirittura anni fa c'era uno che tirava, non so come funziona, tu sei del mestiere, praticamente questo accelerava a 1000 il camion col freno o motore tirato, il freno non lo so, ma lui mollava i gomme, ma tu devi vedere che lo scivola dietro, le ruote, un filaco di gomma, lui mollava, boom, è stato diavolito. E ahi, abbiamo visto l'altra cosa che mi dicevo, non l'avevo fatto queste qua le gare, avevamo fatto la pista qua di Ottava, avevamo fatto il salto a vedere un po'. Adesso mi stavo dicendo Giovanni Mattia e ci andavamo a fare una posizione col cambio, ci vanno spariti, non è che possiamo andare a fare una famosa dei doppi, pure cioè ci andavo io, ma c'è questa cosa qua, ma non so se è amore che lo vestia, capito? Non so quando è, me lo stava dicendo Giovanni, non stavo accennando, però non ho capito quanto è, poi si diceva una cosa, ma c'è un tanto che manca. Ma tu vai a fare il rally o a vedere? No, vado a vederlo io, vado a vederlo, dai. Sto buttando quando il rally, già, eh? C'è un rally con un casco, tutto vestito da marziano. No, sono belli, ci sono quei California, ti ricordi? Quelle due marmitte grandi, bellissimi per camion, ci sono anche quelli. Sì, l'ho già visto una volta, non mi ricordo se erano venuti 7-8 anni fa, una cosa del genere, ma sono pochi i camion, non è che sono molti, perché se lo fanno lì all'autodromo di Morez non sono molti i camion, pare che fossero 6 o 7, una cosa del genere, però ben attrezzati, fortissimi, camminano, sono le bestie, ma sono dei limoni già. Vedono tutti i marmettoni che escono a fianco alla cabina quando mettono in moto, che siamo la Formula 1, per carità. No, non lo sapevo, adesso mi informo a vedere, tanto amore se c'è un sacco di colleghi, provo a chiedere a vedere se lo fanno lì, e se no la faranno a quello di Oristano, non lo so, bisogna figlio da Giovanni a vedere se lo sarò lo fanno. Va bene, ciao Antonello, ci sentiamo domani, Gianluca l'ho salutato, mi pare di sì, poi Gianni, Salvatore ci sei ancora, sì. Ehi, caro, ogni tanto me ne scende anche il piede nella portante, mi sto addormentando. Ciao, sembra uno zombie. Ho detto che si sente, che sembra uno zombie. E cosa? Salvatore parlando. Ma insomma, se potevi essere il volume, quando parli tu, lo abbassare, con la parola di Dio, lo sollevare. Quando parla Giuseppe, lo abbassare. Tu non mi vuoi trovare il comando, ma per trasmettere la notte. Avanti, ciò c'è. Non abbiamo la stessa potenza, lo sai, no? Io ti avevo basso lì, e dunque, ma ascolti benissimo, ma ascolti bene, hai capito? Guarda Giuseppe, non ti devi lamentare, perché tu, liscio e liscio sta arrivando, quanto sta arrivando Gianni, capito? Quanto arriva Gianni arrivi tu, 9:25, capito? Poi Gianni quando... geniale fortissimo qua, sia alla pari degli altri, non sei indietro a nessuno. Volevo richiamare Antonio Bombolo, se è rientrato. Antonio? No, magari ce la pensi io una cosa del genere. Ma se è arrivato forte, è arrivato. Eppure qualche giorno da quel punto lì mi porto questo apparecchio a vedere quanto è sto forte. E questo qualche parte ce l'ha. E l'attacco lì a vedere. A vedere come ti esce. Beh, sicuramente riuscirai benissimo, ma infatti ribadisco che Giuseppe, per avere un'antenna montata in quelle condizioni, arriva veramente molto bene. Ha lo stesso segnale di Gianni, né più né meno, quindi la parità e potenza sono uguali, precisi identici, 9,25. Perciò vai benissimo, Giuseppe, di cosa di buona metà, di niente. Gigi, a te il microfono, vai, prima che ti addormenti alla sedia, quella da re che c'hai, quella da Martiano. È pulito, oh, non l'avevo mai adoperato, adesso adoperato questo figlio col 40. È attaccata questa sedia, è chiama la retro, a parte mi dava fastidio. Se la usa per le pezzine, per questo tempo se me lo so mette in questa, però adesso sei in questa macchina non la puoi spostare, sarebbe meglio quella con le rotelle, però è comoda, quella, una poltrona bella comoda, bella imbottita, e quando la pensa si può appoggiare, è comodissimo, hai capito? La sto sfruttando adesso, la sto sfruttando almeno qua, la consumo. Però che se vuole rimanere la Catria Nuova, vedo che mi incentivo la Catria rimane sempre Nuova. No, io ho quello proprio l'ufficio, quella che puoi bloccarla e non ti domando, invece la lascio sempre sbloccare, so che sempre non dovrei neanche lì, perché c'è la testa. Quella proprio grande, quadrata, alta. In pelle pugnalata in stoffa, che quella lì è per il computer, però siamo sempre qua, già va bene, già va bene. Beh, sapete cosa vi dico, signori, che anch'io spengo, così diamo la possibilità a chi vuole rimanere di rimanere. Io vi saluto, sono 10:15, ma ne vado a riposarmi un pochino perché oggi mi sono alzato un buon a presto. Un abbraccio a tutti, grazie del QSO, ciao Giuseppe, ciao Gianni, buon trabocco per domani, ciao Gigi Vulcano, Salvatore, Antonio Alessio, chiunque fosse in ascolto, compresi SWL. Un saluto a tutti, buonanotte, grazie delle due chiacchiere, ci aggiorniamo domani Giuseppe, poi domani sera si vedrà. Ok, microfono per Gianni Doppio, mi fai girare tu, da parte mia, cuore ti è seccato. Ciao, Claudio, ci sentiamo, buon correttivo. Ma sono corretti anche, sono venuti cordialmente. Ciao Claudio, una cosa so che hai detto a Capaterra, ma Gio Maria che non so appunto più niente, non entra in radio, ma sai qualcosa tu, se poi ti lascio andare. Claudio, hai saputo qualcosa se sei all'ospedale, se è uscito, se è a casa? Oh, dici, è a casa già dall'inizio della settimana, al busto, al collare, mobilizzato, si alza 10 minuti al giorno, perché deve appunto alzarsi per forza, però è a casa. Tieni conto che il busto deve tenere 3 mesi, è a casa, io l'ho telefonato anche oggi, è a casa, quindi quando volete andare ha detto che non ci sono problemi, purtroppo gli orari, insomma, non all'ora di pranzo, non all'ora di cena, è la mattina presto, ma a metà mattinata lui è tranquillo, è già pulito, già ordinato e quindi insomma può ricevere, capito? Positivo, se è stata in via bene, là. Solo da un casotto verso quel punto va, 3 mesi, deve fare anche il mese di agosto, sono 3 mesi di tutto il mio caso con questo punto, è un casotto, speriamo che si riprenda subito, da già gli faccio una pasta, domani gli faccio una pasta, Giovanni, allora se anche a te faccio una pasta. Va sicuramente le fa piacere, Gigi. Se hai bisogno di qualcosa lì, ma non ci sono problemi, già c'è il numero del telefonino, il numero di casa, non c'è problema. Dai signori, buonanotte a tutti, saluto Gianni che è già chiuso. Salvatore, perché il microfono. Ciao Giuseppe, ciao nuovamente a tutti, buon proseguo di questo per chi prosegue e per chi non prosegue, buonanotte, sono i loro, a domani. Salvatore, per il microcambio, per me QRT. Ok ragazzi, che dire, riposo a tutti quanti, i cicari, io sono impegnato in un torneo, stavo rispondendo a un po' di parolacce che mi hanno scritto, quindi tanto per cambiare. Saluto a tutti quelli che vanno in QRT, dai. Che uè, anche gli ascoltoni vanno in QRT, Ocla. Non dimentichiamoci. Comunque, salutoni e buon tutto, dai, a risentirci alle prossime. Non è un molto il fondo, però vorrei ricordare. Sai, anch'io vedo la buona notte, dai, a tutti. Ciao, Salvatore, Antonio, Giuseppe, Gianni, mi sa che già chiuso la parte di la buona notte. Se prendi tu Giuseppe, io non mi credo più. E scappa, dai. Salvatore! Vabbè, ti saluto Luigi, stai chiudendo pure tu, ci sei la prossima, avanti Salvatore! Cappa, sono qua, bombolo. Mi sta cadendo la palpebra. Beh, assolutamente no. Sì, salutoni, ci sentiamo presto. Sì, ciao, sono aspettato. Cappa, avanti veloci. Va bene, dai, signori. Io vi auguro una buonanotte a tutti quanti, componenti del canale 10, e anch'io faccio quelli di, ci sentiamo, ci aggiorniamo domani, se coincide, dai, quelli di per me, dai. Ehi, Agnese, fatti sentire domani, sì. Scappa. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, Giuseppe, ci sentiamo. Ui, ui, ui. Pomponio ha spento? Sì, vero, anche lui. Giusto. Stavo dimenticando. Mi fai un riepilogo di chi c'è, dai. Oh, ma ho tutte le tue antenne dove sono. Si vedono anche da via Lomberto, vero? Hai voglia. Voglia, si vedono. Ponte benissimo. Quella particolarità è che a seconda dell'illuminazione che c'è nel cielo, quindi a seconda dello sfondo quale si trova l'antenna ad essere guardata, se ne vede una piuttosto che l'altra. Ho visto. Si vede anche la viale, come cavolo si chiama? Ma quella zona, tipo viale Trieste, l'altra via che c'è. Ma adesso non mi viene in mente, via Caffreda si vedono anche, o no? No, negativo, si vedono da viale Trieste. Bravo, da viale Trieste si vedono, sì, hai ragione. Si vedono le antenne e i tiranti dell'HF. Bravo. Infatti, e qui ci vedo da via Lomberto, la via. Yes. Oh, quanti siamo rimasti? 876 siamo rimasti. E se lunga. Scappa. Quando ti arrivo io a casa tua? Che sono con questo baracchino. 9.5 in questo momento. Già va bene, dai. Scappa, modulazione per la spinta, no? Ti sento bene. Da nulla da obiettare, solo che io dovevo rosmettrare con quest'altra di antenna, aspetta. No, va bene. Ecco qua, ok, adesso sistemato. 9.5, sì. Scappa, ma dove è cambiato l'antenna? Siccome prima stavo usando l'HF, adesso ho switchato su quella per la 27, però hanno un accordo leggermente diverso, perché questa non ha l'accordatore da palo, per cui lavoro con l'accordatore della radio. L'altra c'ha un accordatore da palo, e quindi quando uso anche l'accordatore della radio chiaramente si regola in una maniera differente, e quindi ogni volta che cambio sull'antenna persa devo ricordarmi di rifare la taratura. Comunque qua sei quasi a fondo scala, sei qua. Sei molto molto molto molto forte. E come hai cambiato l'antenna sembra che abbia migliorato anche la radio. E vabbè, considera che però allora 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ok, questo sono proprio con il minimo poter uscire. Chiappa. Vabbè, sei fortissimo comunque. Beh, evidentemente evidentemente io da qua ti vedo, sei molto molto molto forte, anche adesso che è abbassato non è che abbia cambiato molto, qualche di più in meno. E adesso sono proprio prima tacchetta, dovrebbero essere proprio 5 watt spaccanti, sì. No, ma molto la differenza la sta facendo la cuffia, Questo microfono è veramente una cannonata, e con questa regolazione in AM penso che vado bene anche in banda laterale, anzi in banda laterale posso aumentare ancora un po' di più il mic gain e ottenere una bellissima modulazione. No, sono contentissimo, sono veramente contento. No, per me è troppo bassa. E adesso sto parlando a voce bassa io, proprio a un fil di voce, perché sono andati già a letto tutti quanti. Ho capito, è per quello che sei a voce bassa. Dunque, allora, vediamo se riesco a compensare come bassissimo della voce tirando su il mic gain. Se è troppo così va benissimo, va perfetta. Okay, qui sono proprio con un filo di voce, però ho sollevato molto l'amplificazione del microfono. In cuffia non mi sto sentendo, proviamo a sentirci in cuffia. Ok, sì, va bene. Yes, va bene. Forse senti anche le moto quando passano qui. No. Senza te è fatta. Gianni Doppierù mi ha spento del tutto. Ci sei. Gappa. Ok, dai. Dai, io ti saluto. Chiudo. Se la risentiamo domani. Ok. Vabbè, molto volentieri Anto. Molto volentieri, anche se comunque credo domani non riusciremo a sentirci, perché dobbiamo organizzare una rustita in campagna domani sera, quindi finiremo molto tardi. E domani mattina non accenderò di sicuro. Comunque, caro Antonio, buon tutto e buona nottata, buona dormita più che altro. Vediamo, e vabbè, già facciamo altre dorme. E già no, vabbè, domani alle prossime, quando vuoi. Buonanotte, dai, buonanotte anche a tutti gli ascoltoni. Ci risentiamo. Perfetto così, Antonio, perfetto. Salutoni e buon tutto, a risentirci. Ciao, curati anche per me. Ciao, ciao, ci risentiamo. Ciao, sabato, buonanotte. Oh, ma ti sei fatto vivo, pensavo di essere rimasto da solo. No, sei solo, me ne sto andando anch'io. Ti saluto, buonanotte. Mi sono entrato solo per salutarti, lo ascolto, ma non potevo risponderti qua. Allora ti avevo detto bene che non eri proprio, eri ancora andato via. Mi era sembrato strano che non ci avessi salutato. Ho già, parlando con un filo di voce, anche a te arrivo tranquillo. Sì, ma io ho salutato un po', ho detto che facevo pure le zii sabato. Poi sono intervenuto solo per dire a Giuseppe di farsi sentire. Ah, ecco perché mi ha tratto in inganno quella allora. Quindi era giusto che facevi i corretti come nel momento in cui aveva fatto Pomponio e Claudio, nello suo modo. Caffa. Allora sei super perdonato. E siccome domani tu lavori, sei super perdonato tre volte. Ehia, un dito sulla piaga. Vabbè, sabato buonanotte, ti auguro un buon divertimento per il fine settimana. Sei carissimo, grazie a te e della chiacchierata. A risentirci, buon tutto e salutone a tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando. Anche Salvatore fa QRT. Gianni e Bombolo, tutti quanti stiamo chiudendo. Ciao a tutti. Ciao, ci sentiamo, buonanotte. Buonanotte anche a tutti i SWL. Non ci ammali, Alice di Bu. Orecchie pelose. Ok, ciao a tutti.